Zanzara con Alessio Maurizi. Vengo anch'io. No, tu no. Vengo anch'io. No, tu no. E vengo anch'io. No, tu no. Ma perché? Perché no. Buonasera cari ascoltatori, 800 24 0024 come ogni sera per intervenire in diretta. Vengo anch'io o no alla festa del 25 aprile, una festa che sempre di più si trasforma in una sequela di distinzioni, di divisioni, di distinguo. Vengo perché è una grande festa della democrazia, no, non vengo perché poi mi prendo i fischi, è successo oggi a Bersani, a Milano e a Roma a La Russa, tutto il contrario insomma di quello che vorrebbe Napolitano, festa di liberazione dal nazifascismo il 25 aprile del 1945, Napolitano che vorrebbe invece una festa di riconciliazione. Sentiamo. Ebbene, è nell'interesse comune che le esigenze della competizione in vista del voto non facciano prevalere una logica di acceso e cieco scontro. È nell'interesse comune che dal richiamo di oggi, 25 aprile, agli anni della resistenza, della ricostruzione democratica e del rilancio economico, sociale e civile dell'Italia, dal richiamo a quelle grandi prove di impegno collettivo venga lo stimolo a tener fermo quel che ci unisce e deve unirci come italiani. Vengo anch'io, no tu no. Ma poi 25 aprile, anniversario esattamente di che cosa? Di quale fatto? 800 24 0024, chiamateci e ditecelo in diretta, anche se naturalmente è facile, basta aprire un libro di storia o per i più pigri andare su Wikipedia. Sì, c'è un fatto insomma che viene celebrato, anche se per altri questo anniversario è un po' la sintesi di una serie di cose: la democrazia, la Costituzione, la Repubblica, i diritti civili, la fine della guerra, già perché l'Italia era in guerra e ritornò alla pace in quel percorso che iniziò il 25 aprile del 1945. Però tutti questi distinguo, vengo anch'io, no tu no, non vi ricordano qualche cosa? Vengo, non vengo, partecipo, non partecipo, sentite un po' qua. Che dici, vengo? Mi si nota di più se vengo e me ne sto in disparte o se non vengo per niente. Vengo. Vengo e mi metto così vicino a una finestra di profilo, in controluce. Voi mi fate, Michele, vieni di là con noi, dai. Io, andate, andate, vi raggiungo dopo. Vengo. Ci vediamo là. No, non mi va, non vengo. No. E vedere di nascosto l'effetto che fa. E vengo anch'io! No, tu no! Insomma, c'è anche naturalmente un po' di strumentale in tutte queste distinzioni. Ogni anno si ripresenta puntualmente la questione del 25 aprile. Più a tardi leggeremo anche un po' di editoriali, un po' di prese di posizione, poi i vostri interventi. Naturalmente, ricordo, 800 24 800 24 0024, anche 349 238 6666, la zanzara è radio24.it. questo è naturalmente uno dei temi di stasera. E distinguo è toccato alla Russa, per esempio, prendersi i fischi a Roma. Il ministro della difesa, onorevole Ignazio La Russa. Reparto d'onore, per la costante e premurosa attenzione che sempre riserva alle forze armate. Poco fa il segretario del PD Bersani ha detto: io non l'avrei fischiato La Russa. E qualche fischio, se non ho capito male, se l'è beccato anche lui a Milano, forse da qualche frangia dei centri sociali che partecipava alla giornata in Piazza Duomo. Grande assente Silvio Berlusconi, tanto per fare un nome e tanto per dire di quanti siano i distinguo su questa festa. L'ultima sua partecipazione credo che risalga al 2009, subito dopo il terremoto d'Abruzzo, ed era tutto un altro clima. Oggi qualche giornale, ieri, oggi non sono usciti, si divertiva a riproporre la foto di Berlusconi col tricolore intorno al collo il 25 aprile del 2009. Tutt'altra epoca. Silvio Berlusconi evocato da una gagliardissima 99enne sul palco, credo, di una manifestazione a Roma. Non voglio morire berlusconiana, dice, sentiamola. questo non è il paese per cui noi abbiamo lottato durante la resistenza. Io ho 99 anni e non voglio morire sotto Berlusconi. Si potrebbe andare tutti quanti al tuo funerale, vengo anch'io, no tu no, per vedere se la gente poi piange davvero e scoprire che battono anche le suore. E insomma, cari ascoltatori, qual è il vostro 25 aprile, la vostra testimonianza, il vostro racconto, il vostro partecipare, il vostro invece non voler partecipare? Altro tema di questa sera, la vicenda dei nomadi a Roma. Lo sapete, insomma, c'è stato lo sgombero di un campo nomadi da parte del comune di Roma, poi le famiglie che non volevano trovare una sistemazione e non volevano andarsene hanno occupato per un paio di giorni la Basilica di San Paolo a Roma. C'è stata una mediazione, è durata diverse ore, impegnati membri del comune ma anche della Chiesa e della Caritas. Poi si è trovata una soluzione, soldi ad alcuni per rientrare nel loro paese, altri si sono, a dir la verità, dileguati, pronti probabilmente per rientrare dalla finestra, e invece il grosso se l'è preso la Caritas. Una situazione che secondo me mostra un po' i limiti della politica che adesso va per la maggiore del rimandiamoli tutti a casa. Gianni Alemanno, sindaco di Roma, buonasera, benvenuto. Buonasera. Ecco, questa è un po' la valutazione che mi viene da fare, però prima di tutto vorrei chiederle, ne valeva la pena sgomberare queste famiglie per arrivare a questa soluzione che, come dicevamo, è un po' di compromesso e il grosso poi alla fine se l'è preso la Caritas? Che fine faranno, tra l'altro? Guardi, bisogna ritornare con la memoria a quando c'è stata la tragedia dei quattro bambini morti a Tor Fiscale. In quel caso un campo simile a quello che è stato sgomberato ha preso fuoco, perché gran parte di queste baracche sono fatte di plastica, sono estremamente pericolose, e giustamente in quel caso io fui sollecitato a accelerare la chiusura di questi campi abusivi. Adesso, dopo quella vicenda e dopo 75 campi abusivi sgomberati, non mi si può venire a dire ne valeva la pena, perché veramente significa stare fuori dalla terra o fuori dalla realtà. Il problema vero è un altro, è che noi offriamo alle persone che vengono sgomberate l'asilo, l'assistenza soltanto a donne e bambini e soggetti fragili, mentre questi nomadi rivendicano un'assistenza a tutto il nucleo familiare. Però l'assistenza al nucleo familiare, all'intero nucleo familiare, comporta sostanzialmente le persone che vengono messe in assistenza poi non rimangono lì per sempre, quindi tutti i nostri centri vengono in qualche modo occupati definitivamente. Allora noi da questo punto di vista stiamo cercando di procedere pragmaticamente, ma noi non vogliamo più campi abusivi a Roma, cioè questa è una cosa che non può più essere, perché noi non vogliamo più avere tragedie come Tor Fiscale, perché Roma non si merita questa cosa. Chi si dimentica troppo in fretta questa cosa dovrebbe farsi un po' di esame di coscienza. No, certo, lei su questo naturalmente ha ragione di insistere. Il punto però è che sembra in questa vicenda, che poi per la verità insomma non è di dimensioni particolarmente rilevanti, però che il rischio sia quello di chiudere questi campi e però poi di vedere le persone che, non volendosene andare, non potendole rimandare in Romania o insomma in altri paesi perché sono comunitari, e poi non si sa che fare e alla fine rientrano dalla finestra e sono sempre qua, e rispetto a quello che invece sono le dichiarazioni Alemanno, perché lei stesso ha detto i toni della Lega sono eccessivi fuori dai bal di pochi giorni fa. Non c'è dubbio che siano eccessivi, però si fa un po' di propaganda su questo, quando poi si devono gestire i problemi invece lei è la dimostrazione. No, l'ha detto. Guardi, questo ripeto, è il 75esimo sgombro che facciamo dall'inizio di aprile, dal 1 aprile, e abbiamo sgomberato circa 1000 persone. Molti di questi sono tornati in Romania, perché quello che bisogna comprendere è che questi non, ci sono anche i disperati, non sanno dove andare, ma molti di queste persone hanno una casa in Romania. Ma quanti sono rientrati in Romania? Guardi, la gran parte di questi 1000 persone sgomberate, almeno 800-900 sono andate via. Nell'ultimo campo sono arrivati a Basilica San Paolo perché purtroppo alcune associazioni, in particolare alcuni centri sociali, hanno fatto una sfida ideologica e hanno voluto in qualche modo enfatizzare la volontà di queste persone di rimanere a Roma, comunque di non dividere i nuclei familiari, hanno fatto questa occupazione. Però noi, questi non sono dati nostri, sono dati della polizia, perché poi questi sgombri non li facciamo noi, li fa la polizia. La larga parte è tornata perché queste persone hanno, in molti casi, la maggioranza dei casi, hanno una casa in Romania, vengono in Italia perché pensano di poter farsi un gruzzo, per poter vivere meglio, di poter avere più soldi, e vanno nelle baracche molto spesso non perché in assoluto non siano in grado di permettersi un qualche alloggio migliore, ma per massimizzare il loro reddito, cioè per non pagare un affitto. Queste sono verità che purtroppo possono sembrare un effetto di insensibilità o di atteggiamenti, diciamo così, di poco buon cuore, però purtroppo sono dati che ci vengono dalla questura, che ci vengono dalla Romania, che ci vengono da una serie di accertamenti che abbiamo fatto. Quindi... No, ma certo, ma infatti affrontare il problema è proprio quello che... a meno che io adesso su quale la stavo sollecitando, perché per esempio il fatto che lei dice di 1.800-1.900 sono tornati in Romania, però l'obiezione è semplice, no? Chi ci assicura che poi presi 1.000 euro tornano in Romania e poi invece ritornano in Italia? Tornati spontaneamente. Allora, attenzione, la questione di questi 500 euro che noi diamo più c'è altri 500 del vicariato, che sono dati al nucleo familiare, non a persona, sono stati diciamo così fatti soltanto questa volta, sono stati proposti solo questa volta perché appunto c'era l'occupazione a San Paolo, c'era questo atteggiamento molto teso e quasi tutti l'hanno rifiutato, soltanto una o due famiglie l'hanno accettato. In realtà quello che queste persone non vogliono e essere eccessivamente controllati, quindi alcuni indubbiamente si disperdono sperando di andarsi a campare da qualche altra parte della città, ma molti, la maggioranza, alla fine capiscono che non è più conveniente stare qui a Roma e vanno altrove. Ma il dato centrale su cui io insisto con grande forza è che il campo abusivo in ogni caso non è una soluzione, cioè meglio altre cose, ma il campo abusivo è una bomba umanitaria. Certo, certo. Senta, ma perché secondo lei, mi scusi, perché secondo lei non si può fare in Italia, per esempio, come in Francia, nella civilissima Francia, dove c'è una legge in base alla quale ogni comune con più di, credo, 5.000 abitanti, se non ricordo male, insomma comuni medio-grandi, è obbligato a creare dei campi per i nomadi in modo da frazionarli, evitare grandi conglomerati che sono, come diceva lei, negativi, pericolosi da un sacco di punti di vista, e quindi diciamo ripartirli per evitare questi campi abusivi. Secondo lei si potrebbe fare una roba del genere in Italia? Allora, sarebbe sicuramente un fatto utile e auspicabile, e qualche cosa è stato fatto da questo punto di vista, proprio per evitare che si addensino tutti quanti nelle grandi aree metropolitane. Tenete presente una cosa, che i campi abusivi si sovrappongono a altri due generi di campi che esistono a Roma, che sono i campi autorizzati, che sono 7, che ospitano circa 4.000 persone. Poi ci sono i cosiddetti campi tollerati, quelli che esistono da decenni, non autorizzati ma tollerati, insomma, che ci vengono al passato, che ospitano altre 2.000 persone circa, e in più ci sono questi campi abusivi che diciamo così all'inizio dei nostri sgombri ospitavano 2.000-2.500 persone, adesso, come ho detto prima, dovrebbe essere circa 1.500 o giù di lì. Quindi si tratta di vari livelli diversi. Allora, il problema qual è? Il problema fondamentale è che c'è un atteggiamento, c'è una scelta di fondo che va verso una volontà di sfuggire alle istituzioni da parte di questi nomadi, e su questo bisogna in qualche modo misurarsi, che noi non è che quindi diciamo... cercare un dialogo, anche in fondo una convivenza con alcuni, esatto, di questi. Ma guardi, cioè noi stiamo lavorando perché nei campi autorizzati ci siano addirittura le elezioni dei rappresentanti dei nomadi, quindi questo dialogo c'è. Però bisogna essere molto realisti, c'è un atteggiamento soprattutto dei campi abusivi, che sono quelli più recenti, quelli di nomadi che vengono dalla Romania, persone che magari sono arrivate da pochi mesi, il cui atteggiamento è proprio volontariamente quello di sfuggire a un rapporto chiaro con l'istituzione, cioè una volontà di stare in una situazione in qualche modo indefinita, e questo è un elemento su cui ci dobbiamo confrontare. Ora è chiaro che non ci sono soluzioni perfette, quindi bisogna andare anche, insomma, così in maniera molto pragmatica, però quello che non ci possiamo permettere è di rimanere fermi, quindi noi stiamo muovendo da questo punto di vista, stiamo sistemando in qualche modo le situazioni più drammatiche, però il concetto che vogliamo far arrivare fino in Romania è che non si può venire a Roma per stare in un campo abusivo. periodi, questo è un messaggio che deve arrivare in Romania, perché sì, se non arriva in Romania continueranno ad arrivare sempre di più. Cioè, se noi diamo il messaggio che basta arrivare a Roma, magari mettersi da qualche parte, poi arriva qualcuno che gli dà una casa o che gli dà un alloggio, non ne arrivano 2.000, ne arrivano 20.000, 30.000, 50.000, e questo fa saltare qualsiasi circuito di accoglienza, proprio perché sono le aree metropolitane che attirano questo tipo di atteggiamento. Quindi bisogna evitare i buonismi, cioè bisogna guardare in faccia la realtà, bisogna non fare i cattivi. Quindi lei, insomma, si sente di come dire, di ribadire sulla politica dei respingimenti, del rimandiamoli a casa il più possibile, nonostante, come anche lei ha ammesso, ci siano stati magari dei toni eccessivi da parte della Lega. Però resti in linea perché abbiamo il traffico e me lo dice subito dopo. Sindaco Alemanno, rimandarli a casa oppure trovare un dialogo, trovare anche un modo di convivenza con queste persone, trovare delle soluzioni, per esempio come ha fatto la Caritas, perché poi la Caritas, diciamolo, in parte le ha tolto anche un po' le castagne dal fuoco in queste ore di Pasqua. Sì, non c'è dubbio che la Caritas alla fine è intervenuta, è stato un intervento risolutivo, io li ho ringraziati, e non è la prima volta che noi collaboriamo con le associazioni sociali, perché ovviamente le istituzioni e il circuito di accoglienza delle istituzioni si integra con quello delle associazioni sociali. Però guardi, io respingo il cattivismo della Lega, le sparate. Hanno un po' esagerato coi toni. Però sì, dall'altro lato, ripeto, non si deve fare i buonisti, perché se si fa i buonisti si crea una situazione che diventa crescente. E ma cosa vuol dire fare i buonisti? Per esempio la Caritas ha esagerato, lei adesso li ringrazia, però insomma lei parlava di messaggi che si mandano in Romania. Qua il messaggio che arriva è quello di una soluzione si trova sempre. Sì, sì, ma guardi, la Caritas fa giustamente il suo mestiere, che è quello di essere un'organizzazione solidarista. Noi siamo le istituzioni e le istituzioni debbono trovare un giusto equilibrio. Ripeto, solo solidarietà, solo accoglienza e basta. Cioè l'idea che una persona viene a Roma con mezzi di fortuna e poi solo perché è arrivata a Roma ha un alloggio, una residenza, altre cose, questo è un messaggio che diventa devastante. È chiaro il concetto. In Europa ci sono 12 milioni di nomadi che si spostano inevitabilmente fra le aree più difficili e le aree più accoglienti. Se noi diamo un messaggio di accoglienza indifferenziata, sì, ma chi è, scusi, che noi non avremo, sì, come c'è oggi, sì, 8.500 sì, nomadi nel nostro territorio. Mi dice però chi è che sta dando in questo momento messaggi come questi, cioè di venite comunque e troverete le porte questi aperte. Questi messaggi che vengono dati, guardi, le faccio un esempio per capirsi. A un certo punto noi, quando stavamo cominciando gli sgomberi, per trovare una soluzione alle famiglie, abbiamo ipotizzato di mettere su delle tendopoli. Che poi non siamo riusciti a mettere su perché non trovavamo territori disponibili. Quando è passato il messaggio delle tendopoli, il giorno dopo, cioè due o tre giorni dopo, si sono presentati al nostro assessorato 50 famiglie nomadi provenienti da ogni parte d'Italia dicendo: sappiamo che state allestendo le tendopoli, ci vogliamo prenotare. È chiaro il concetto, quindi per favore cerchiamo di affrontare questa cosa con tutta la solidarietà umana possibile, ma senza raccontare fiabe, perché se raccontiamo fiabe creiamo delle situazioni terribili, cioè creiamo delle situazioni in cui diamo l'idea che si possa venire a Roma, in qualsiasi altra grande città, mettersi in qualsiasi posto di fortuna. Sì, ma però scusi, lì chi è che ha sbagliato? Chi ha dato l'informazione? Bisogna tenerlo nascosto? Quale? Cosa? No, il fatto della tendopoli, cioè che poi ha attirato queste Ovviamente no, noi abbiamo detto ovviamente quello che stava accadendo, però c'è un passaparola che abbia anche le cose sono avvenute adesso con la Basilica di San Paolo, altre cose o altri messaggi di questo genere, generano delle aspettative. Noi dobbiamo essere molto attenti da questo punto di vista, fermo restando che noi stiamo facendo tutto quello che è indispensabile per dare solidarietà ai nomadi che storicamente stanno a Roma e che sono già di per sé 7.000 circa, per cui da questo punto di vista non è che si tratta di negare la solidarietà, ma bisogna fare in modo di far capire che a Roma si viene se si ha o un lavoro legale, ossia una residenza in qualche modo accettabile, e questa è la strada, altrimenti sì, se noi prendiamo una strada diversa, ripeto, una strada per me buonista, significa sostanzialmente non riusciremo mai a gestire il problema con gravi difficoltà per i cittadini romani, ma anche per le persone che arrivano e si mettono lì. Perché ripeto, di disgrazie in questi accampamenti abusivi ne sono caduti più di uno, e quelli che sono stati le vittime sono sempre stati minori, che sono quelli che sono finiti morti, bruciati in queste baracche. Senta, ma in una scala da 1 a 10 lei che voto si darebbe sulla gestione del problema, dei problemi legati alla presenza dei Rom nel periodo della sua amministrazione? guardi, io sono abituato ai voti, non se li devono mai dare gli amministratori, ma li danno i cittadini. No, una scala, diciamo, di risoluzione dei problemi, no? Se poi avevate 100 problemi. Facendo un grandissimo sforzo da questo punto di vista, non è mai stato fatto. Noi abbiamo chiuso campi tollerati tipo il Casino 900, che erano lì da 40 anni ed era una vergogna all'umanità. C'erano persone che stanno lì in mezzo ai rifiuti, senza acqua, senza luce. Noi abbiamo chiuso quei cose e abbiamo dato un'alternativa in campi autorizzati, perché potevamo farlo e lo faremo in ogni occasione che possiamo farlo. Dove non ci arriviamo, allora a questo punto siamo obbligati a prendere atto che non ci arriviamo e non possiamo farlo, ma non possiamo per questo lasciare le persone abbandonate lì. Quindi io non mi do nessun voto, io faccio quello che è possibile fare. Senta Alemano, io non ho visto troppi servizi TG oggi, non so se lei ha partecipato a qualche celebrazione per il 25 aprile. Certo. Che cos'è per lei il 25 aprile, in un minuto, perché poi chiudiamo? Ho partecipato alla consegna della medaglia d'oro che è stata fatta al Capo dello Stato all'Altare della Patria, poi ho portato una colonna di fiori al Museo di Via Tasso. Per me il 25 aprile è la giornata della liberazione, cioè la giornata in cui il popolo italiano si è liberato da una oppressione, da una dittatura, e questo è un fatto molto positivo per la storia del nostro paese. Benissimo, io la ringrazio e la saluto. Grazie, arrivederci. Buona serata. 18:57 minuti, giornale radio, torniamo tra pochissimo, 800 24 00 24, con i primi ascoltatori in linea, Luca, Marino, Sebastiano e poi tutti gli altri. La zanzara. Vengo anch'io. No, tu no. Vengo anch'io. Un 25 aprile sempre più di divisioni, di distinzioni. Vengo anch'io, non vengo. Se vengo mi prendo i fischi, come è capitato a Bersani a Milano e alla Russa a Roma. Se non vengo poi mi dicono che non celebro il 25 aprile. Grande assente oggi dalle manifestazioni pubbliche Silvio Berlusconi. 25 aprile l'abbiamo voluto prendere così, da tempo ormai sempre più festa in qualche modo delle divisioni e dei distinguo. Vittorio Feltri sul giornale: ogni anno la stessa solfa, i fascisti veri non sono, sono morti e sepolti, tranne rare innocue eccezioni. I partigiani veri, non quelli dell'ultima ora, sono pure estinti per analoghi motivi di età. Che senso ha allora inneggiare alla liberazione? Liberazione da chi? Da mio nonno camicia nera, dice Feltri, che poi prosegue: la nostra è stata una guerra civile, sporca e odiosa come ogni guerra civile, non è il caso di commemorarla. Non ci si venga a dire che è servita per toglierci il giogo nazista, perché a questo rimediarono gli anglo-americani. Vengo anch'io. No, tu no. E invece, Concita De Gregorio sull'Unità: no, no, bisogna festeggiare, sentite perché. A Milano le Brigate Rosse in procura e a Roma le squadracce fasciste che augurano buona Pasquetta per farsi beffe del 25 aprile. Direte, sono manifesti messi da qualche cretino, vero, ma solo qualche anno fa non si sarebbero permessi, dice Concita De Gregorio sull'Unità. I cretini escono in massa allo scoperto perché si sentono tutelati, spalleggiati e in fondo approvati. Alcuni sono cretini, pazienza, altri sono sul crinale del crimine, a volte oltre. Ci sono cose che non si possono fare, non perché non sta bene o perché si offende qualcuno, ma perché è proprio un reato. Apologia di fascismo, per esempio. E tra poco all'800 24 00 24, la vostra giornata del 25 aprile. Titoli di Sky TG24. Due carabinieri aggrediti nel Grossetano, uno rischia la vita, arrestati quattro giovani. Disabile perde il controllo dell'auto, tre morti nella piazza centrale di Carpi. 25 aprile, appello di Napolitano, non prevalga lo scontro cieco, fischiato la Russa. Ricorrenza celebrata anche a Milano, contestati Bersani e il sindaco Moratti. Fini in visita ai militari di Herat, siete voi i migliori testimoni della liberazione. In Siria il pugno di ferro di Assad darà assediata dall'esercito, 20 morti. Raid NATO sul quartier generale di Gheddafi, tre vittime, attacchi a misurata. Migranti e permessi, domani a Roma il vertice chiarificatore Berlusconi-Sarkozy. La giovane incinta di due gemelli morta in ospedale a Salerno, indagati sette medici. Il rientro dal weekend lungo di Pasqua, traffico intenso e pioggia al centro nord. Questo dunque Sky TG24, invece la sintesi della giornata nel TG3. Napolitano non prevalga il cieco scontro sia alle riforme ma senza mettere in discussione i principi fondamentali della Costituzione. Celebrazioni in tutta Italia per la festa della liberazione, 60.000 in corteo a Milano, fischi e contestazioni dai centri sociali. Bersani, difendiamo la Costituzione, Berlusconi al colle, idea da brividi, il PDL bene Napolitano ma restano ferite aperte. In Siria continua la dura repressione del regime di Assad, nuova strage, più di 100 vittime da venerdì, scontri e morti anche nello Yemen. Dopo i ricorsi regali della FIOM sul contratto separato del 2009, Federmeccanica attacca, potremmo non pagare gli aumenti agli iscritti alla CGIL. Ad Agrigento crolla un antico palazzo nobiliare, la folla contro il sindaco, non ha mantenuto le promesse, a rischio anche la cattedrale. Tra poche ore il 25esimo anniversario dell'incidente nucleare di Chernobyl, la più grande catastrofe tecnologica del secolo scorso. Dichiarazioni politiche delle ultime ore, ne abbiamo selezionate alcune. Bersani, vuoi vedere che alla fine ci toccherà scrivere un libro sul lessico del segretario del PD? Sentiamolo sul nucleare con un'altra uscita delle sue, e fa anche autoironia da solo, sentiamo. Loro forse, io dico in bersanese, che forse hanno la volpe sotto le celle, no? Aspettano magari che cali l'emozione sui fatti giapponesi per riprendere il tema, ma ben prima dei fatti giapponesi noi abbiamo detto che questo programma nucleare è totalmente assurdo, è totalmente impossibile, improbabile, ingestibile, inutile. Anche lui però è abbastanza ingestibile, improbabile, non dico inutile perché ovviamente sarebbe una mancanza di rispetto per Bersani, però questa della volpe sotto l'ascella è davvero incredibile. Risentiamo. Loro forse, io dico in bersanese, che forse hanno la volpe sotto l'ascella, no? Aspettano magari che cali l'emozione sui fatti giapponesi per riprendere il tema, ma ben prima dei fatti giapponesi noi abbiamo detto che questo programma nucleare è totalmente sì, assurdo. Che uno ancora prima di sapere di cosa sono i fatti giapponesi e di pensare a tutto il resto della frase rimane lì bloccato sulla volpe sotto l'ascella. Bersani, che poi ci scherza da solo, lo dico in bersanese, non riesce a fare a meno assolutamente di usare queste espressioni che e in altre occasioni hanno lasciato un po' a bocca aperta alcuni commentatori che dicono che Bersani non ce la fa, insomma, a comunicare in maniera diretta e sintetica, però insomma alla fine diventa quasi divertente. Altra dichiarazione è del sindaco di Firenze Matteo Renzi, che riguarda la polemica, per la verità insomma non è una vera e propria polemica ma insomma una querelle da lui aperta sulla questione dei negozi aperti a il 1° maggio, un sacrilegio secondo una parte dei sindacati, la CGIL in prima fila. No, i lavoratori devono festeggiare, quindi assolutamente no. Lui dice negozi aperti perché insomma è una questione di buon senso. Non c'è nessuna provocazione. Firenze è una città turistica che compete in tutto il mondo con le altre città turistiche. Allora, la possibilità di lasciare aperti per chi vuole i negozi, non tutti, non i centri commerciali, ma soltanto i negozi del centro storico, è un gesto di buon senso perché i turisti che arrivano in città non trovino la città chiusa e sprangata. 800 24 00 24, il tema è quello di appunto tenere o non tenere i negozi aperti in occasione del 1° maggio, e quindi per i lavoratori sarebbe uno sforzo in più, dice il segretario della CGIL Camusso. Non capisco però perché gli altri lavoratori che già è previsto che lavorino, quelli dei servizi per esempio, pensiamo ai trasporti o agli ospedali, devono lavorare e nessuno però se ne è mai preoccupato. Una polemica chiama all'altra, questa è quella sollevata dal sottosegretario con delega alla famiglia Carlo Giovanardi, che se l'è presa con lo spot dell'IKEA che mostra una coppia di uomini che vanno per mano e di spalle. E il testo dice: siamo aperti a tutte le famiglie, un modo per vendere librerie e divani anche alle coppie omosessuali o comunque agli omosessuali, ma Giovanardi lo trova addirittura un attentato quasi alla Costituzione. Nella nostra posizione laica repubblicana è descritta la famiglia è una società naturale fondata sul matrimonio. La Corte Costituzionale ha ribadito che il concetto di matrimonio, quindi la famiglia sul matrimonio, è un concetto che coinvolge l'uomo e la donna. Capisco che sia di cattivo gusto, almeno per i gusti di Giovanardi, ma tirare in ballo la Costituzione mi sembra un tantino eccessivo. 800 24 0024 per dire la vostra, 349 238 6666, la zanzara è radio24.it. Cominciamo con le vostre chiamate, siete in attesa già da un po'. Luca da Roma, buonasera, benvenuto. Buonasera. Prego. Salve. Volevo innanzitutto fare un commento sull'editoriale di Feltri che parlava che la festa del 25 aprile è inutile farlo perché non ci sono più sopravvissuti e quindi è inutile farlo. Faremo così anche per, che ne so, l'olocausto, perché finiranno tutti i reduci delle deportazioni. Cioè, un discorso, a mio avviso, assurdo, cioè, proprio non è da considerare. Avevo chiamato per un altro, poi quando ho sentito questa affermazione mi ha lasciato un po'... Sì, certo che però col passare del tempo lei ammetterà che si perde un po' di intensità, sì, no, nel celebrare però queste date. Il problema è che come giornata è importante, cioè non è una giornata, rappresenta un periodo storico che ha cambiato una generazione, che ha portato a un cambio generazionale, economico del nostro paese, quindi penso sia importante. Poi che sia festa o ricordo sia magari soggettivo, però che vada ricordato secondo me è importante. Poi che sia strumentalizzato è un altro discorso. Va bene, ma lei l'ha chiamato anche per un altro motivo? L'ho chiamato... Era Alemanno. La domanda mia era, visto che io lavoro da anni davanti a un campo nomadi, credo sia che sia abusivo. Ma dove? A Roma? A Muratella. Sì. Famoso poi per l'incendio di dove morì la... Non è uno di quelli sgomberati, perché Alemanno ha detto ne abbiamo sgomberati per quasi mille persone. No, assolutamente. Questo fino c'è ancora. C'era. Poi se l'ha fatto durante Pasqua e Pasquetta, non credo, ma non ci risulta. Non è al lavoro. E ma, quindi? La mia domanda è capire qual è... Che vuol dire campo autorizzato? No, visto che lui dice non li chiamiamo per venire qui all'alloggio gratis, eccetera. Se è autorizzato, prima di tutto diventa un alloggio gratis, no? Perché poi sono delle, le ho viste, quelle diciamo credo più a norma, sono delle, diciamo, delle, dei prefabbricati con tanto di parabola e altro. E, però il problema è che il lavoro non ce l'hanno, non glielo danno, e quindi quello che fanno, e io lo vedo tutti i giorni, è uscire con i carrelli e prendere il rame, il ferro. Cioè lei dice che si dà comunque quel messaggio di cui Alemanno si preoccupava, no? Di dire si dà una casa, questo? Esatto, perché il problema o dai un messaggio netto dove dici qui non si può stare perché poi fomenti l'opinione pubblica, oppure se dici li spostiamo dove? In un altro punto dove ci sarà un altro quartiere, magari più povero, più periferico, dove di fianco ci avrà questo campo, così come la Muratella dove sto io, dove io stesso, che ho un parcheggio del lavoro che sta a fianco al centro edizionale dell'Alitalia, subisco tutti i giorni vetture rotte, eccetera. Ma non lo dico di stomaco, lo dico come situazione che continua. Adesso io ho 39 anni, da quando sono nato si parla di campi rom a Roma, cioè è un problema che rimane sempre. Il fatto di sgombrarlo, come dice Alemanno, e portarlo e trasferirlo da un'altra parte non ci fa altro che spostare un problema da una parte ad un'altra parte. Ma lei non ha notato, come diceva Alemanno, che i rom sono diminuiti, i campi abusivi sono diminuiti perché sono stati chiusi, sgomberati un po' di campi in questi ultimi tempi? Questa sensibilità non ce l'ho, perché chiaramente non è che c'ho il quadro di tutta Roma. Vabbè, insomma, lei ci ha parlato quindi di questa sensibilità, però... non ce l'ha, lei ci ha parlato della sua esperienza, grazie. Alla Muratella, altri ascoltatori romani magari ci possono raccontare altre esperienze. Velocemente Marino da Rimini, prima della pausa. Buonasera. Prego. Io inizialmente chiederei perdono alla signora Feltri, però doveva essere incinta molto spesso. La signora Feltri, la madre? Sì, appunto. Chiedo perdono alla madre. Vabbè, però mi sembra che... cosa vuole dire? Vuole dire questo? Spero di no, perché sennò... Sì, appunto. Vuole dire qualcos'altro? Io volevo dire che... mi chiedo dove era oggi il Presidente del Consiglio, chissà, siccome parlo sempre di Bunga Bunga, che fosse da quelle parti, deve essere un paese... Mi strano. Dicono che era in Sardegna, non so se questo la può interessare, o se no, la sua no, era una domanda niente, retorica, insomma, sì. Sì, oggi effettivamente era la giornata giusta. Secondo lei avrebbe dovuto esserci alle manifestazioni, alle celebrazioni del 25 aprile? Non so, io penso di sì. Lei cosa pensa? Ma io penso forse di sì, però insomma Non lo so se da questo punto di vista c'è una ritualità, una convenzione assodata in Italia. Ormai sono tanti anni che Berlusconi è presidente del Consiglio, ci ha abituato così. Allora vuol dire che noi sei, cretini siamo noi. In che senso, mi scusi? Che lo votiamo. Cretini italiani. Per lei, sì, cretini per lei, quelli che lo votano, sì. Va bene. Va bene. E così ha ricambiato il coglioni che... che Berlusconi rivolse agli elettori del centrosinistra, e siamo pari 1-1. 19:29, direi che abbiamo una brevissima pausa e poi rientriamo all'824-0024. 800-24-0024, ci abbiamo Sebastiano che chiama da Bologna. Buonasera. Sì, pronto? Prego, sì, è in diretta. Sì, mi sente? Ascolti, ecco, io volevo fare un appello, se possibile, al ministro Romani, perché ho visto, diciamo, la trasmissione Porta a Porta, dove appunto lui diceva che c'era un momento di stand-by sul nucleare, quindi che io poi trovo anche giusta questa cosa, perché visto le vicende, un momento di riflessione sulla sicurezza mi sembra dovuto, non trovo niente di strano su questa cosa. Però loro hanno detto che avevano già presentato un piano che diceva 25 fonti rinnovabili, 25% nucleare e il resto, quindi avevano già presentato il piano, ecco. Però sì, purtroppo in Emilia Romagna si è bloccato completamente il settore del fotovoltaico adesso, perché da un mese e mezzo a questa parte c'è stato questo blocco anche da parte degli incentivi, quindi non si capisce più quant'è in base al vecchio piano del conto energia che stabiliva che erano 50 centesimi per ogni kilowattora, adesso si è fermato. Quindi purtroppo la gente non sta più comprando questi impianti, quindi c'è tutto dietro un meccanismo di indotto, quindi si è fermata la vendita, molte aziende hanno investito, quindi lei dice il nucleare non si fa, il fotovoltaico è una delle rinnovabili. Si blocca tutto, ma è... sì, prego. No, appunto questo stavo dicendo, si blocca tutto. Sì. Visto che il momento mi sembra buono, volevo dire di cercare di un attimo di sbrigarsi a ricreare un nuovo piano di incentivi, perché comunque gli incentivi li stanno facendo tutti, in Germania continuano a farli. Un conto è bloccarli, un conto è diminuirli, se li vogliono diminuire lo facciano adesso. Io ammetto la verità, su questa cosa degli incentivi al fotovoltaico non ci ho capito quasi più niente, perché è stato detto tutto il contrario di tutto, il governo ha smentito prima il blocco degli incentivi, poi è stata posticipata la decisione, comunque degli obiettivi importanti sono già stati raggiunti, ma francamente su questo io non so cosa dire, perché credo che sia una questione ancora aperta, che nelle prossime settimane verrà chiusa, può darsi che ci sia uno stop momentaneo. Io personalmente penso che sarebbe un grave errore ovviamente interrompere questa strada delle rinnovabili, ma credo che lo pensino tutti. Bisognerà vedere poi come verrà intrapresa questa strada, e credo che siamo in attesa di una decisione definitiva del governo, non vorrei sbagliarmi. Dove andiamo? Andiamo a Sergio che ci chiama da Salerno, buonasera. Ciao, buonasera. Senta, io, anzi ti do del tu, ho ascoltato un po' gli interventi che mi hanno preceduto, io sono un po', la penso un po' diversamente, io credo invece, come ha detto anche Napolitano, sia avuta dal suo punto di vista, che sia venuto il tempo di superare questa contrapposizione che ci trasciniamo da troppi anni. È un fatto che se siano trascorsi 66 anni e ancora non ci sia trovata, la quadra per una riflessione comune, credo che abbia un significato tutto questo. Io poi vorrei dire questo: i valori che possono essere alla base della resistenza possono essere condivisi, chi è che non condivide la libertà, ma il voler ritornare sempre su fatti storici che hanno determinato e creato tante divisioni, secondo me non rende un buon servizio a questo paese, che invece avrebbe bisogno di unità. D'altra parte, io credo che, a meno che non si voglia far scadere tutto a mera propaganda, io credo che ormai questa data interessi soltanto quella parte d'Italia ufficiale, il popolo non mi pare di vederlo a queste manifestazioni, e mi sono ricordato di quello che succedeva, ho 58 anni, mi sono ricordato quello che succedeva una quarantina di anni fa, quando io andavo alle manifestazioni a vedere, perché ero curioso, le manifestazioni dei combattenti della Prima Guerra Mondiale. E alla fine si ridussero a essere soltanto i sindaci con la gran cassa delle bande, un bel discorso retorico, ma alla fine niente di significativo restava. Ecco, quella festa, quella che poi completò l'unità nazionale, mi pare che non sia nemmeno più festa nazionale. Quindi significa che purtroppo, o cioè, magari, dice, prima o poi non si festeggerà più nemmeno il 25 aprile. Ma credo di sì, perché se non si è festeggiato più la vittoria della Prima Guerra Mondiale, che ha completato il processo unitario di questo paese, è probabile che succeda anche questo. Beh, sa, c'è anche un margine, mi scusi, poi la faccio finire, di convenzionalità in queste cose. Insomma, è stato scelto il 25 aprile, adesso questa, se non sbaglio, c'è il 2 giugno, la festa della Repubblica, sì, ecco, sono queste due le date, un po' in ballottaggio, però con queste due date si sintetizza un po' tutto il processo della democrazia in Italia, per cui non credo che si salterà, insomma, negli anni a venire di festeggiarla. Però, voglio dire, sarà soltanto una sorta di chiamata alle armi per i pochi addetti ai lavori. Il popolo non mi pare di vederlo in queste manifestazioni. Un'altra cosa volevo dire, anche perché poi è diventata una manifestazione di parte. Oggettivamente io vedo che la Russa è un coraggioso ad andare a prendersi i fischi, poteva starsene a casa, perché proprio perché è diventata una manifestazione di parte. La Russa può avere avuto milioni di applausi, che sono i milioni di voti che gli hanno consentito di stare al governo. Questo è anche vero che è di parte perché qualcuno non ci va, oltre che perché qualcun altro la interpreta forse come una cosa solo sua, ma insomma non ci addentriamo. Finisca, sì. Mi consenta, la Russa va lì e fa un discorso istituzionale, sì. Viene fischiato. Non mi pare che sia andato sul palco per parlare contro la resistenza o contro i valori della resistenza o contro la liberazione. Allora c'è evidentemente qualcuno da sotto al palco che non gradisce la presenza di la Russa. Ma sono cose politiche, certamente. La Russa è stata votata dalla maggioranza degli italiani, quindi c'è una contraddizione anche in termini di libertà e democrazia. Un'ultima cosa le vorrei dire per Alemanno. Veda che Alemanno mi ha sorpreso quando ha detto le cose che ha detto circa il fascismo, la liberazione e quant'altro. Perché sì, Alemanno è stato un maestro di pensiero, di tutto quanto oggi dice di aborrire. Sì. E purtroppo per i tanti ragazzi che ci hanno creduto, non è stato un buon maestro se poi dopo tanto tempo si è ricreduto. Sono già alcuni anni che ha cambiato opinioni Alemanno e in effetti c'è stato un cambiamento. È notevole da questo punto di vista, e cosa vuole che le dica? È anche giusto cambiare o no? O bisogna per forza portarsi dietro le stesse idee? Alemanno, ricordi sì. Che cosa ha rappresentato per tanti ragazzi e che cosa ha insegnato a tanti ragazzi? Forse avrebbe una coscienza più critica anche quando dice queste cose. Grazie. Matteo dalla provincia di Foggia, buonasera. Oh, buonasera. Prego. Senta, spero che tenga la batteria perché. Comunque volevo allacciarmi, no, a quello che diceva Alemanno sui nomadi, no, che vivono senza acqua, senza luce. Cioè, io sono d'accordo, no, ad aiutare questi nomadi egiziani, marocchini o qualsiasi popolo che viene in Italia. Ma prima di aiutare queste persone, no, perché non aiutiamo prima gli italiani? Tipo come me, che io dall'89 che vivo senza acqua e senza luce, politicamente sono andato 100.000 perché volte. Perché vive senza acqua, mi scusi? L'allacciamento a questa casa vecchia non c'era, sia dell'acqua che della luce. Ci vogliono 2.000 euro per aggiustarla, 2.000 euro per attaccare l'acqua, 1.000 euro per la luce, io non li ho perché oltretutto sono andato a vedere un lavoro perché i miei problemi personali, fisici, non posso fare sfocci, cioè, visto che quasi lavoro. Ma non ha mai andato dagli assistenti sociali, non per farmi fare i suoi. Guardi, posso dire una cosa, adesso ci sono le votazioni, no? Qua addirittura se li comprano i voti, no? Sì. Quindi addirittura il fratello del sindaco, il cugino del sindaco, portano mano a mano, dicono fai lavorare a questo piuttosto che a quello, quindi cioè, come quando è piccolo e così è grande, come i nomadi che sbarazzano da lì, secondo me. Guadagnerà qualche cosa l'istituzione, sicuramente, perché altrimenti se ne fregherebbero altamente. Ma lei, mi scusi, mi sta chiamando al telefono di casa, cioè non c'ha la luce, l'acqua. Telefonino. Ma la bolletta chi gliela paga se non riesce a pagare? Il cellulare, il faccio no, veramente, guarda, l'attacco alla, al bar, dove vado, agli amici del bar, no? E carico il cellulare. La corrente, ma la bolletta, mi scusi, perché... Non c'è la bolletta di luce, accendo le candele. No, la bolletta del telefono, non quella della luce. No, è questo il cellulare, lo attacco con il bar degli amici e carico la batteria, no? Ah, ho capito, cioè lei ecco telefona che tenga la batteria, a scrocco, perché... lei telefona a scrocco, è questo? No, a scrocco, oddio, sono degli amici che gli faccio anche io dei piaceri, mica a scrocco, che scrocco, balle fresche, Lei sta accusando, sta dicendo le stupiderie, già Cruciani è antipatico, adesso... Lei no, ma io... però, no, la domanda che io l'avevo fatto... Lei sta appuncicando, lei sta... Ma vabbè, dai... La domanda che io le ho fatto è questa, Matteo, è questa. Lei ha detto che non è riuscito ad allacciare l'acqua e la luce a casa sua, no? Sì, per mancanza di soldi direttamente, questa è la questione. E allora io le chiedevo come fa per mettersi un telefono che non dico che non sia necessario, però forse rispetto all'acqua e alla luce magari è meno necessario. Questa è la domanda. 10 euro che costa il telefono, c'ho una madre che abita a Milano, fratelli a Milano, non è necessario secondo certo. Lei. No, no, una no, ma che arriva a Trento che insomma. Era una domanda un po' scherzosa, ma finisce. Però lei non è che scherza. Sentimenti, ma è lei che ha chiamato dicendo tutto questo, cioè si sta ascoltando un sacco di persone. È meglio mettere la luce all'acqua e non avere un telefono di 10 euro. Ma che esempi mi fa? Esempi di bambini d'asilo. Ma è questione di punti di vista. Comunque, grazie Matteo, vabbè, grazie. Grazie a lei, arrivederci. Ci è rimasto male, ma insomma, c'era anche un che di così di scherzoso nella sua telefonata, o quantomeno noi ce l'abbiamo, io ce l'ho visto personalmente. Chi abbiamo? Andiamo ancora con gli ascoltatori, prima del prossimo ospite, Alberto da Brescia, buonasera. Buonasera a lei. Prego. A proposito del 25 aprile, io sono uno abbastanza vecchio, quando ero bambino chi parlava come per esempio la signora Santanchè di qualche sera fa, veniva preso, rasato a zero, messo su un carretto, gli faceva girare il paese perché la gente vedesse chi stava da una parte e chi stava dall'altra. Oggi questo dov'è che accadeva? Mi scusi, quando? Quando ero ragazzino, visto che ho un bel po' di anni, il 25 aprile, chi stava da quella parte, cioè dall'altra parte, veniva rasato a zero, le donne soprattutto, sì. Poi faceva di peggio evidentemente, basta leggere gli ultimi libri, no? E veniva messo su un carretto, gli facevano girare il paese per dire ecco questo stava dall'altra parte e ha fatto questo, non so, ha fatto dell'azione contro il partigiano, ha fatto eccetera eccetera. Ma ho telefonato per un altro motivo. Oggi guardavo un film, un vecchio film che è Quo Vadis, film di secondo me di buona fattura per quei tempi, c'era lì quello sempre, e cercavo di sostituire i nomi, mi scusi ma non sono abituato per cui sono un po' emozionato. Prego, tranquillo, sì. Cercavo di sostituire i nomi a quel che accadeva perché mi sembrava fosse la parodia di oggi, fosse la parodia di quelli di 2000 anni fa. Allora, se noi sostituiamo Petronio Arbitro con Travaglio, per fare un esempio, e poi sostituiamo uno che canta mentre Roma va a fuoco là, ma qui l'Italia sta andando a fuoco da un'altra parte, pensiamo alla Mercegaglia, quel che dice eccetera eccetera, tutti gli altri, insomma, e la parola cristiani, gli mettiamo la parola comunisti, e dicevo a me sembra di rivedere 2000 anni dopo quel che succedeva a Roma allora, uno che canta o che racconta barzellette, insomma, eccetera, e tutto il resto che succede in quel modo lì. Va bene, questa telefonata bisognerebbe riascoltarla bene per capire esattamente quello che ha detto l'ascoltatore, forse c'è anche un senso nel suo paragone, nel suo racconto, nel suo confronto con questo film di cui ha parlato, Quo Vadis. Chi ha capito, beato lui, io non moltissimo, ma non importa. Carlo Giovanardi, buonasera. Sì, buonasera. Sottosegretario con delega alla famiglia. Premesso che Klaus Davi, il nostro collega giornalista Klaus Davi, è comunque sempre molto bravo a creare anche delle notizie, no? Per cui a volte poi vengono così. Fra l'altro lei con Klaus Davi c'ha un passato, perché ha fatto diverse interviste con lui, ma questo lo vediamo più avanti. Come le è venuto in mente di tirare in ballo la Costituzione per una pubblicità dell'IKEA, Giovanardi? No, anzi, ne approfitto perché oggi il Capo dello Stato ha richiamato fortemente, tutte le settimane sento questi appelli in difesa della Costituzione. Allora faccio fatica a capire perché un richiamo a uno dei fondamentali articoli della nostra Costituzione, quindi un richiamo in difesa di questo articolo, possa essere accolto da insulti e da reazioni scomposte, quando su quell'articolo cioè la famiglia, società naturale fondata sul matrimonio, è costruita la nostra storia ed è costituito il principio di una nazione laica e repubblicana. Quindi non capisco perché. Ma chi è che l'ha una insultata? Domanda, che cosa penso di chi invece, come è nel dibattito di oggi, vuole trasformare questo principio costituzionale nella missione che si possano sposare, quindi unirsi in matrimonio anche uomini e uomini e donne e donne, cosa che la nostra Costituzione evidentemente non consente, non vedo perché non si debba difendere anche questo principio della nostra Costituzione. No, a dire la verità, nella pubblicità si vedono solo due uomini per mano, di lì a dire che si sposano... No, se fosse solo così niente da dire, perché io ho detto che se l'IKEA pubblicizza i suoi negozi aperti a qualunque orientamento sessuale di persone che giustamente, liberamente vivono come vogliono, è un conto. L'IKEA c'è scritto che quella è una famiglia. E quindi ha fatto quel passaggio che giustamente Vattimo ieri su Repubblica sottolineava, cioè la rivendicazione di uno scardinamento del nostro principio costituzionale per andare al di là di quello, in una posizione che il governo, la maggioranza, la Costituzione non ammette, perché la nostra Costituzione, 3 mesi fa la Corte lo ha ribadito, considera la famiglia quella costruita da un uomo e da una donna. Ma non le pare di dare troppo peso a uno spot, addirittura che scardina il concetto di famiglia nella Costituzione? Mi sembra un po' tirata per i capelli. Scusi, mi hanno chiesto cosa penso di quello spot. So che fa parte di una campagna di potenti lobby, l'ho vista l'azione ieri, omosessuali che spingono in questa direzione. So che in altri paesi europei, tipo la Spagna, queste lobby sono riuscite a imporre anche dal punto di vista legislativo il loro punto di vista. Lo ritengo, come tantissimi paesi europei, ne abbiamo parlato a Budapest l'altro giorno, nell'ambito dell'incontro dei ministri europei della famiglia, che fra denatalità, invecchiamento della popolazione e flusso migratorio difficilmente integrabile se non ci saremmo più noi, contestare o comunque togliere quella posizione di privilegio che la nostra Costituzione dà all'incontro fra uomo e donna e soprattutto alle famiglie numerose, cioè quelle che hanno molti figli. Quindi invece che aiutare i progetti di chi mette al mondo quel capitale sociale che sono i figli, costituisce nuove famiglie, che poi è la stragrande maggioranza della popolazione, continuare a vedere che si punta invece sulla promozione di realtà, per l'amor di Dio, che sono liberissime di svilupparsi come vogliono, siamo in un paese libero, è una cosa che non condivido e sottolineo, è contrario a quanto è scritto nella nostra Costituzione. Senta, ma per esempio Scalfarotto, perché lei parla di lobby degli omosessuali, non so poi a cosa si riferisce, a qualcuno in mente? Mi riferisco ieri e sono... Poi per l'amor del cielo, le lobby ci sono in tutti i campi, Giovanardi, quindi possono esserci anche lì, non c'è... Ma tant'è vero che io ho avuto piena solidarietà da Giorgio Merlo del Partito Democratico, che mi ha detto Giovanardi ha perfettamente ragione a difendere la Costituzione. Sono stato aggredito, per esempio Francesco Merlo invece su Repubblica ha usato solo insulti. L'ho chiamato manganellatore fascista, perché io faccio un ragionamento, può essere condivisibile o no, rispondere a un ragionamento con degli insulti, cretino, energumeno, come lui ha usato, vuol dire che si hanno pochi argomenti e che a ragionamenti seri, io la concio una mia amica, io non ho niente contro gli omosessuali, combatto la violenza verbale e fisica, ma non posso non notare che negli ultimi 6 mesi più di 10 donne italiane sono state massacrate, uccise, o dai mariti, o dai fidanzati, o dai padri nel caso delle musulmane, e quindi la violenza purtroppo in questa società si esercita non soltanto con gli omosessuali, si esercita perché ci sono persone nella loro follia che pensano di poter insultare e di poter addirittura eliminare gli altri se non si sottopongono ai loro desideri. Però questo, Giovanardi, è il problema. Sì, allora, però questo l'ha detto chiaramente, però mi scusi, anche lei ogni tanto ci è andato giù pesante, perché lei dice che non ha nulla contro gli omosessuali, però in passato ha detto delle cose, poi sono i titoli, insomma, una società basata sui gay farebbe morire il mondo, disse sempre a Klaus David. Ma scusi, è come dire che c'è l'acqua calda, è evidente che se l'orientamento sessuale dei giovani fosse orientato all'omosessualità e non ci fossero più coppie eterosessuali, è evidente che in 2 generazioni si estingue il mondo, ma non è mica un gran ragionamento, scusi, lo capirebbe anche un bambino di 5 anni, che il mondo si è sviluppato in milioni di anni perché c'è un diritto naturale, sì, e c'è un incontro fra uomini e donne che mettono al mondo le bambine dando la continuità. Però per la verità, allora, lei disse, perché io c'ho qua il virgolettato, lei disse, sì, no? Se i movimenti dell'orgoglio omosessuale fossero prevalenti o riuscissero a convincere il mondo che quella è la strada, bla bla bla, allora il mondo finirebbe nell'arco di una generazione. Sì, sì, no, ma mi faccia finire, mi faccia finire la domanda, scusi, poi risponde. Il punto è che secondo me non vanno in questa affermazione, non è tanto la conclusione, quanto la premessa, cioè che gli omosessuali vogliano convincere gli altri a fare come loro. A me sembra che gli omosessuali vogliano avere la possibilità di vivere come vogliono, ecco, non vedo, guardi, questo tentativo di convincere. È una cosa diversa, perché sì, se lei, come vede, avrà l'occasione di vedere come si svolgono le manifestazioni dell'orgoglio gay, non è una cosa nella quale si dice noi, e io sono perfettamente d'accordo, siamo esattamente uguali agli altri, quindi vogliamo vivere come gli altri. C'è l'ostentazione dell'orgoglio gay, ma non c'è l'ostentazione dell'orgoglio eterosessuale. C'è un equilibrio. Lei mi faceva riferimento a questa frase, non vedo cos'abbia di sconvolgente, che dice: io mi considero vicino al mondo cattolico, considero il celibato dei preti una cosa importante perché è la vocazione, non ho difficoltà a dire che se tutti facessero, se fossero celibi, non si sposassero e facessero i preti, sarebbe un disastro per il mondo, che vorrebbe dire che il mondo si estingua. Vabbè, la sua, insomma, la sua voleva solo essere in qualche modo una tautologia, cioè, insomma, no, sì, ma però vede, certe cose vanno un attimo ripetute, perché un conto è la parità di tutti. Allora, noi siamo in un paese in cui ministri, parlamentari, grandi imprenditori, grandi artisti, grandi imprenditori apertamente si dichiarano omosessuali. Ma questo non c'è niente di male, che perché? Ma succede quelli come allora? Appunto. E allora dov'è il problema? Il problema, secondo loro, è avere gli stessi diritti. Giovanardo, sono omosessuale, dov'è il problema? Ma infatti non c'è nessun problema. Il problema l'ha sollevato lei, secondo me, tirando fuori una cosa che la Costituzione, che anche se Giorgio Merlo è d'accordo, mi sembra. Mi hanno chiesto, condivide una. Mi sembra esagerato. Insomma, dove due uomini che si danno per mano dicono quelle sono una famiglia. Sì. Io ho detto no, come ministro della famiglia, giurato fedeltà alla Costituzione e lealtà. Ma quello è solo uno spot, è uno spot commerciale, non c'entra nulla con la Costituzione. Posso dissentire da uno spot commerciale o è vietato in Italia? Questo certamente, certissimamente. Uno dice mi dà fastidio, mi giro dall'altra parte. E quello che non capisco, gliel'ho fatto la prima domanda, cosa c'entra la Costituzione? Questa mi sembra una presa di posizione eccessiva. La Costituzione non definisce quella una famiglia, quindi venire un'azienda svedese in Italia a dire quella è una famiglia. Un'azienda svedese che occupa molti italiani. Rispetto alla nostra Costituzione, e non capisco perché ogni volta qualcuno dice modifichiamo un aspetto della Costituzione, a sinistra ci si stracci le vesti dicendo la Costituzione è un equilibrio. Ma qua nessuno parla di modificare la Costituzione, Giovanardi. Io difendo un principio costituzionale rispetto a una visione che sì, no, ma è chiaro che lei difende, però mi scusi, qua nessuno minaccia di cambiare la Costituzione semplicemente perché si accomunano. I giornali di oggi sono pieni, se ne guarda l'agenzia, di dichiarazioni di parlamentari radicali eccetera eccetera che vogliono cambiare. Ma questo la Costituzione dipende dallo spot dell'IKEA, questo fra uomo e uomo e fra donne e donne. Ma mi scusi Giovanardi, questo dipende dallo spot dell'IKEA? Ma lo spot dell'IKEA è stato un momento nel quale mi hanno chiesto un'opinione e si inserisce in un movimento politico di opinione che vuole arrivare a quel risultato che io non condivido. Cioè lo spot dell'IKEA si inserisce in un movimento di opinione? Certo, perché gli svedesi, secondo lei, se hanno fatto, perché non ci ha messo un uomo e una donna e due bambini? Perché lei pensa che, mi scusi, ma qui non la seguo, più, Giovanni. Lei pensa che l'IKEA venderebbe più divani se in Italia ci fosse il matrimonio per gli omosessuali? L'IKEA evidentemente ha pensato attraverso un pubblicitario di promuovere i suoi affari in quella maniera, io non ho nulla da dire, mica voglio boicottare l'IKEA, dico solo che non sono assolutamente d'accordo sulla visione della famiglia che l'IKEA vuole. No, ma questo lei ovviamente è libero di dirlo, però mi sembra che quando lei dice che c'è un movimento nel quale si inserisce lo spot dell'IKEA, mi sembra che sia un po' delirante. E dei parlamentari che appoggiano questo tipo di tendenza sta promuovendo quest'idea, vuole modificare la Costituzione delle nostre leggi, anzi sono già andati più volte alla Corte Costituzionale. Sì, ma va bene, ma cosa c'entra l'IKEA? È questo che io non riesco a capire, cosa c'entra l'IKEA in questo movimento d'opinione che vuole cambiare, che c'è, lo sappiamo L'IKEA benissimo, il Parlamento, le lobby. Ha stabilito che quello che noi a Milano, nella conferenza nazionale, dopo tre giorni di lavoro, abbiamo nel piano per la famiglia stabilito essere il fulcro delle prospettive italiane per il futuro, cioè puntare sull'incontro fra un uomo e una donna, per costruire quella potenziale stabilità di cui abbiamo vitale bisogno. Ma loro fanno tante pubblicità anche con l'uomo e la donna, lo sai. Loro costruiscono invece un'immagine diversa, vabbè, su cui io dissento. Ma sì, vede, il problema dell'Italia è che oggi difendere la nostra Costituzione, le nostre leggi. Sì, ma lasci perdere la Costituzione, Giovanardi, perché secondo me, continuo a dirlo, non c'entra nulla con l'IKEA. Un'altra domanda gliela voglio fare, però. Questa è la mia opinione, certo, lei ha detto la sua, io dico la mia. Esattamente con la realtà. Sì, Scalfarotto del PD dice che lei in realtà è un po' frustrato perché c'è questa delega che è senza portafoglio, la delega alla famiglia. Lei ha avuto anche, per la verità, al di là di quello che dice Scalfarotto, uno scontro con Tremonti un po' di tempo fa. Come va con il ministro Tremonti? Io credo che le politiche per la famiglia, soprattutto per le famiglie numerose, vadano potenziate, che bisogna aiutare chi ha la generosità di accumulare quel patrimonio sociale che sono i figli, che saranno quelli che consentiranno a tutti di avere la pensione, di avere l'assistenza sanitaria, di avere in un mondo dove ci sarà una marea di anziani e pochissimi giovani la possibilità di avere assistenza. Quindi credo fortemente, come in tutta Europa, che su queste politiche positive di aiuto per la famiglia si costruisca un futuro migliore per il nostro paese, paese nel quale tutti poi sono liberi di fare quello che vogliono, vivere come vogliono, nelle formazioni sociali. Ma la sua polemica con Tremonti che c'era stata, lei aveva addirittura minacciato di ritirare le deleghe perché non aveva un euro. Berlusconi 10 giorni fa davanti a 2000 persone ha ribadito che questi 50 milioni di euro che sono il fondo famiglia verranno reintegrati, è giusto che vengano reintegrati. 2 milioni di euro, fondo famiglia, questo? No, sono 50 milioni. Ah, mi scusi, avevo capito male. 50 milioni. 50 mila euro. 50 mila euro. Per i prestiti per i nuovi nati, servono per... Ma mi scusi, il fondo di 50 mila euro? No, sono 50 milioni di euro. Ah, ecco, 50 milioni. Milioni di euro, certo. Sono 50 mila, venga reintegrato perché per le adozioni internazionali, per le politiche di conciliazione. Quindi l'impegno del lavoro è fra la madre che lavora e il marito, sono cose importantissime. Sì, l'impegno è a ristabilire questo fondo di 50 milioni di euro. Grazie Carlo Giovanardi, 19:57 e pausa, torniamo tra pochissimo. Ecco, riforme nel rispetto dei principi fondamentali della Costituzione. Ancora violenza in Siria, i carri armati sparano a Derra, almeno 25 morti, al TG1 l'appello di una donna in fuga, ci uccidono tutti. Un gesto di follia il tentativo di dirottamento del volo Alitalia Parigi-Roma, arrestato un kazako bloccato da equipaggio e passeggeri. Tre anziani travolti e uccisi da un'auto a Carpi, nel modenese, alla guida una donna ottantenne che perde il controllo della vettura. Grosseto, in gravi condizioni due carabinieri aggrediti a bastonate da quattro giovani per un controllo a un posto di blocco. Pasquetta, il giorno delle gite e delle scampagnate, nonostante le nuvole e la pioggia, 4 italiani su 10 hanno scelto agriturismi e picnic. Per chi è rimasto in città, Pasquetta culturale con visita a monumenti e musei. 800 24 0024, abbiamo Lina che chiama da Milano. Buonasera. Prego, Lina in diretta. Sono io? Sì, è lei, Lina, buonasera. Buonasera, senta, io sono una piccola staffetta partigiana. Cioè lei sono ha fatto la staffetta? Avevo 6 anni, facevo la staffetta dei partigiani. Dal mio villaggino mi mandavano sulla montagna a portare i messaggi ai partigiani. Dove? Pronto? Dove? Dove avveniva tutto questo? Sulle colline piacentine. Colline piacentine. E c'erano i partigiani sulle montagne. Allora i grandi non potevano andare. E mandavano i bambini. C'erano in giro i tedeschi. E io piccolina mi dicevano: te questo bigliettino nascondilo bene dentro il seno e portalo su sulla collina. Andavo su fino quasi a Bardi, a piedi. Bardi di Piacenza, lo sa dov'è? Io no, personalmente no, ma insomma... Comunque sulle colline, sì. E andavo anche a Luneto, che c'era il gruppo dei partigiani. Sì. E io portavo questi messaggi, e oggi ero in Piazza del Duomo a festeggiare coi partigiani. Ma in Piazza del Duomo dove? A Milano? A Milano. Quindi è venuta apposta da... Lei sta a Milano o sta ancora dalle parti di Piacenza? Io abito a Milano adesso. Ok. Allora ho 40 anni, 45 che abito a Milano. E mi ha fatto piacere vedere Bersani quando è entrato nella Piazza del Duomo. è stato applaudito molto che voi erroneamente avete detto che è stato fischiato. In Piazza del Duomo no, è stato applaudito molto e gli hanno detto: Bersani, fagliela pagare. A chi? La gente gridava Bersani, Bersani e batteva le mani. Va bene. Quando poi è arrivata la Moratti, zitta zitta, è andata sul palco, io mi sono vergognata. Perché zitta zitta? Perché zitta zitta, la Moratti, lei cammina sempre con gli occhi verso terra, non guarda in faccia la gente. Forse perché si vergogna che è una fascistona del cavolo. Addirittura. Scusi la parolaccia, eh? Una fascistona la Moratti. Ma io, siccome non sono mai stata fascista, perché mio papà ne ha prese tante dai fascisti, e io me le ricordo perché ero piccolina, ma mi ricordo. E mi ha dato fastidio la Moratti. Cioè lei non voleva che... Ma perché, scusi, ma perché il sindaco di Milano che viene alla manifestazione per il 25 aprile non è un fatto positivo? No, il 25 aprile non doveva venire. Non doveva. Ma il 25 aprile secondo lei deve essere una festa di tutti o solo di qualcuno? Solo dei partigiani e dei lavoratori. Ma mi scusi, non la... dei berlusconiani. E perché non ci possono essere dei lavoratori o dei ex partigiani? Quieti, perché sono fascisti. Che una volta erano fascisti, sono tutti fascisti i berlusconiani. Scusi, se mi permetto. Sì, sì, no, vada. Ma io, siccome ho patito sotto il fascismo, io mi ricordo le squadracce fasciste che venivano su al mio paesello con le camicie nere, col manganello al fianco. Però mi scusi, sono passati tanti anni adesso che c'entra Berlusconi paura. Con i fascisti. E adesso a vedermi davanti la Moratti che rappresenta i fascisti, perché Berlusconi ci sta portando verso Mussolini. Mi spiace dirlo, però è così. Pian piano, strisciando, ci porta verso il fascismo. Ma per esempio cos'è che c'è che va verso il fascismo nel governo Berlusconi? Mi faccia un esempio, dov'è il fascismo? Berlusconi? Sì. Berlusconi è un dittatore di prima categoria. Un dittatore. Se lei parla per la strada con qualche berlusconiano, se le dà contro, le saltano in testa come i matti. Non può dire male di Berlusconi, perché... Ma secondo lei, mi scusi, oggi c'è la stessa mancanza di libertà che c'era quando lei era piccolina che faceva sì, sotto il fascismo? Ci stiamo andando. Grazie. 25 minuti, titoli della 7. Nuovo duro monito di Napolitano nel giorno del 25 aprile, no alla logica dello scontro cieco, ci vuole un nuovo senso di responsabilità nazionale. E poi il capo dello Stato avverte, riforme solo nel rispetto della Costituzione. Contestazioni quindi, a Roma fischiati i due ministri La Russa e Maroni, a Milano stessa sorte per il sindaco Moratti e per il segretario del PD Bersani, altri brutti episodi nei cortei di alcune città, stelle BR a Livorno, simboli antisemiti a Roma. Berlusconi, ma non è una novità, è assente dalle celebrazioni della Liberazione, ma tutti parlano di lui, sarà il prossimo candidato al Quirinale? Bersani stronca la prospettiva, fa venire i brividi. La Lega no, è uno dei pochi che può essere eletto. Cicchitto dribbla, per ora è solo fantapolitica. Domani vertice italo-francese e proprio oggi la Francia insiste sulla linea che divide i due paesi. È un problema il fatto che l'Italia lasci passare i migranti, ma i consiglieri Sarkozy assicurano tutto finirà poi per mettersi a posto. In Siria l'esercito di Assad schiera i carri armati contro gli oppositori, gli scontri più sanguinosi nelle strade di Deraa, città simbolo della protesta, dove ci sarebbero state 25 vittime, decine di feriti, chiuse le frontiere con la Giordania, scontri in molte città del sud. Due carabinieri presi a bastonate, selvaggiamente, a un posto di blocco in provincia di Grosseto, uno in fin di vita, l'altro rischia di perdere un occhio, la bravata compiuta da un gruppo di ragazzi, tre minorenni, in viaggio per un rave party, all'alcol test era il guidatore positivo. 800 24 00 24, tra pochissimo con gli ascoltatori, prima una breve pausa. E allora riprendiamo, come detto, con i vostri interventi. Al numero verde prendiamo Flavio, che chiama dalla provincia di Modena. Buonasera. Sì, buonasera a lei. Prego. Una parentesi aperta e chiusa, ma ho capito male io o il dottor Mentana ha definito una bravata l'aggressione di quei giovani verso i carabinieri? Non lo so, rimango con questo dubbio. Sì, mi pare anche a me, non sono stato attentissimo, però mi pare, sì. Gliela giro lei, nel senso, se vuole. Magari lo risentiamo, sì, prego. Una bravata, abbiamo un carabiniere fin di vita. Beh no, sarebbe, sicuramente non è una bravata, ecco. Voglio ben dire. Senta, io lo chiamavo per due appunti veloci. Primo, il caso Giovanardi versus Ikea, avendo sentito anche l'intervento dell'ex ministro. Io, ecco, in linea di principio concordo con quanto detto da Giovanardi. Poi la racchiuderei nell'ambito del cattivo gusto, senza scomodare. Ecco, anche lei è d'accordo sul fatto che si possa parlare di cattivo gusto, però scomodare la Costituzione è un po' troppo. Assolutamente sì, infatti io, ecco, resterei nell'ambito del cattivo gusto, punto, i padri costituenti, lasciamoli riposare in pace. E forse non è il caso di arrivare tanto. Seconda considerazione, che si ripropone ciclicamente ogni anno, lavoro sì, lavoro no, il 1° maggio. Allora, innanzitutto io concordo pienamente con Renzi, non avrei mai pensato nella mia vita di essere sempre d'accordo con un esponente della sinistra, probabilmente della sinistra deve tenere molto conto di questa persona che può essere la rampa del loro rilancio, ma non lo faranno sicuramente. Detto questo, sì, in effetti io proporrei più che altro di sentire i diretti interessati, i lavoratori che lavorano in determinati ambienti, viene a loro richiesto di lavorare il 1° maggio. Io penso che possa essere vista anche da queste persone come l'opportunità di un sacrificio, nel senso, oggi ci sacrifichiamo, lavoriamo, che festa, però di un intorno. Oddio, non lo so, sai, perché i titolari forse delle imprese del commercio, sì, i lavoratori non lo so, quando si va a lavorare in giorni di festa non è che uno è mai tanto contento. Guardi, io però insomma, questa è solo una battuta. Dalla cabina di un camion, io sono sul lavoro, anch'io sono. Sì. Ma va benissimo. No, ma io l'ho detto, sono favorevole anch'io, non vedo perché poi i lavoratori del commercio devono avere queste per loro bisogna avere queste cautele quando per altri lavoratori, ho citato i trasporti, sì, e lei non fa eccezione, esatto. Secondo me, ma mi perdoni, lavorano normalmente, sì. Non si ripongono a questi problemi. È la solita cavalcata strumentale di una parte della nostra politica, o dei sindacati, o di certe sinistre, che poi alla fine sono coloro che organizzano il concerto del 1° maggio, che chiama a Roma decine di migliaia di persone alle quali bisogna rivolgere dei servizi. Che ah certo, ma poi qualcuno lavorerà anche, no, per fare il, esatto, il concerto. Certo. Semplicemente per anche questo è vero. Al di là dei servizi di sicurezza, ma ci sarà anche chi, detto in soldoni, stiamo sul pratico, chi vende i panini, chi vende le bibite. Sì, sì, questo è verissimo, questo è verissimo, hai pienamente ragione. Il concerto del 1° maggio, c'è un sacco di gente che lavora per farlo, nessuno si è mai interessato, esatto, di queste persone. Va benissimo così. Ecco, poi se mi permette una terza valutazione velocissima che non avevo previsto, però mi viene veramente da fare, se me la concede. Il sindaco Alemanno, sarei anch'io tra coloro che gli dicono di essere un po' più prudente nell'esternare dichiarazioni pro 25 aprile, che va benissimo, ha cambiato modo di pensare, con gli anni avrà maturato opinioni diverse, però ecco, magari un po' più prudente nell'indignarsi quasi pensando ciò che lui per anni ha creduto, sostenuto, incentivato. Ecco. Cioè, lei dice sarebbe meglio che, per dire la verità, non è che abbia fatto una dichiarazione, 30 secondi in cui ha detto poche cose. Ma io ho sentito l'intervento, sì. Che quando... No, però la mia curiosità è sul fatto se secondo lei, cioè uno non deve cambiare idea, oppure una volta che cambia idea, deve... attenzione. Cambiare idea va benissimo, cioè ci può stare che uno negli anni maturi un modo diverso di vedere le cose, però ecco, la sua è un'indignazione più, è stata una dichiarazione secca, diretta e quasi scandalizzata, come se fosse fatta da un partigiano, ecco, non da uno che per anni ha sostenuto ideologicamente il pensiero diretto. Diciamo che sono dichiarazioni nelle quali, grazie comunque anche a lei, le persone coinvolte, in questo caso Alemanno, saltano a più e pari qualunque forma, diciamo, di riferimento alla propria figura, alla propria persona, al proprio passato, che evidentemente, diciamo, ci potrebbe anche stare. Io avrei potuto anche fargliela una domanda, però eravamo in chiusura e quindi lui ha fatto questa frase sulla fine della dittatura, la fine del fascismo nel quale lui ha militato quando era ragazzo, naturalmente, ma ripeto, adesso questa è la sua posizione. 20:14, tra poco facciamo il traffico, prima sentiamo Angelo da Roma. Buonasera. Buonasera. Prego. Due osservazioni. La prima, lei ha riferito un intervento di Vittorio Feltri che riferiva che l'Italia è stata liberata dagli alleati. Questo storicamente non è vero, perché una parte dell'Italia è stata liberata dagli alleati, Roma è stata liberata dagli alleati, ma Firenze è stata liberata dai partigiani. I nostri partigiani hanno liberato Firenze, hanno liberato Milano, hanno liberato Bologna, hanno liberato Genova. Per cui certo, l'Italia del Nord, gli americani non sono arrivati. Esatto, l'Italia del Nord, che era l'Italia occupata dai nazisti e dai tedeschi, è stata liberata dagli italiani. Le ragioni per celebrare il ritorno della democrazia ci sono ancora, anche se sono passati più di 60 anni, anzi a volte viene da pensare che più che mai ci sia da celebrare e da ricordare. Se poi qualcuno non ritiene se stesso degno di partecipare alle manifestazioni della democrazia, o c'è qualcosa che gli disturba particolarmente della fine della dittatura, andrà a celebrare i valori che meglio ritiene opportuni. L'altra cosa che voleva dire invece? E la seconda è che ho sentito con molta sorpresa l'onorevole Giovanardi. Adesso io sono padre di famiglia, sono cattolico, sono genitore, e sinceramente pensare che le posizioni che spero, perché siamo in piena campagna elettorale o all'inizio della campagna elettorale, l'onorevole Giovanardi riporta, sono le posizioni che deplorevoli e retrive, e definirle in maniera, come dire, generosa. Io non so quali siano i modelli a cui si vuole ispirare l'onorevole Giovanardi, forse qualcuno nel governo a cui lui partecipa, forse il Presidente del Consiglio ha una visione della morale familiare più adatta a quelli che sono i valori di Giovanardi. Io sinceramente, lo ripeto, anche da cattolico se vuole, rimango sempre molto sorpreso da quello che è capace di dire il nostro sottosegretario alla famiglia. Va bene, grazie. Io credo che più che deplorevoli le sue dichiarazioni fossero per accattivarsi un po' il Vaticano, insomma, mi sembra, non lo so, questa è la mia opinione, forse anche in vista delle elezioni, perché era un'occasione, ecco perché dico questo, mi sembra un'occasione strumentale quella dello spot dell'IKEA, che davvero non c'entra nulla con la Costituzione, e lo ripeto, traffico. La prossima ospite potremmo definirla una spina nel fianco del PDL milanese e non solo. La prima che ha denunciato il cosiddetto metodo Minetti di selezione della classe dirigente del partito del Premier, del partito di maggioranza, Nicole Minetti, coinvolta nel processo, nello scandalo Ruby. Lei è Sara Giudice, buonasera. Buonasera, buonasera a tutti. Ex esponente del PDL, adesso diciamo subito per chiarezza, passata in Futuro e Libertà, che cos'è queste denunce del metodo Minetti? L'ha fatta, l'abbiamo vista ad Anno Zero, se non ricordo male, e due giorni fa anche sul Fatto Quotidiano. Che cosa intende lei per metodo Minetti, giudice? Intendo una selezione del personale politico che non è ovviamente una selezione pulita e trasparente basata su un metodo meritocratico e che premia la gavetta e l'impegno, ma una selezione ovviamente legata a quelle che sono delle vicende personali, in questo caso del Presidente del Consiglio con Nicole Minetti, che lei stessa ha dichiarato essere la sua fidanzata del momento, del secondo, e che è stata premiata con 10.000 euro al mese con un posto in Consiglio regionale della Lombardia. Ecco, questo non credo che sia il paese che tutti noi vogliamo costruire. Quindi lei ha 25 anni, esattamente come me, io a differenza sua, non perché io volessi quel posto che non mi interessa assolutamente nulla, ma conosco le difficoltà che ha la mia generazione nel trovare un posto di lavoro e riuscire a avere, se va bene, quasi 1.000 euro al mese e nemmeno, e beh, credo che questo non sia un messaggio giusto da trasmettere alle generazioni che crescono e che vogliono fare politica in maniera sana. Insomma, la fidanzata del capo che ottiene il miglior posto, lei questo lo contesta duramente? Non solo, era la persona che era incaricata di portare le varie ragazze al servizio di uomini anzianotti e molto ricchi. Ecco, questo veramente, se chiunque nella sua vita privata può fare quel che vuole, quando entra nelle istituzioni, beh, non va più bene. Ecco, ma il problema secondo lei è quello che ha spiegato chiaramente, cioè il metodo di selezione della classe dirigente del PDL, secondo lei, dal suo punto di vista, è un problema, o è un problema anche la vita privata con questi festini di Berlusconi? Guarda, le dico sinceramente che io non sono orgogliosa del mio paese quando vedo queste cose. Non sono orgogliosa e bisogna tenere tutte conto due, insomma, sono del fatto che la vita personale quando si è presidente del Consiglio è tutta relativa, che bisogna anche preoccuparsi di dare un esempio, no, all'esterno. E poi è soprattutto una questione anche di etica politica, no? Nel momento in cui tu vuoi frequentare le tue donnine, anche se insomma hanno 25 anni e non credo che sia comunque un bel messaggio, le puoi frequentare senza farle pagare ai contribuenti, quindi senza metterle in Parlamento, senza metterle come ministri e senza metterle come consigliere regionale. Vabbè, però che c'entra adesso i contribuenti? Perché lo stipendio la generosità di Berlusconi è nota e lui ha sempre detto che ha sempre fatto tutto di tasca sua, anzi che in alcuni casi... Lo stipendio di Nicole Minetti lo paghiamo noi, sì. Lo pago io, lo paga lei ed è anche molto caro. Cioè lei mette sullo stesso piano l'elezione di Nicole Minetti al Consiglio regionale della Lombardia con le ragazze che andavano ai festini e che facevano delle prestazioni anche presunte. Sono due questioni completamente separate. Una è quella dell'etica personale di un presidente del Consiglio che frequenta delle ragazze. Io parlavo delle ragazze, cioè le metto sullo stesso piano la Minetti con... Questa è una cosa, ma la Minetti poi da casa sua è passata alle istituzioni, quindi è qui poi che il sistema crolla, no? Cioè nel momento in cui tu già hai una vita privata in qualche modo contestabile e la trasformi in pubblico, cioè se Nicole Minetti la dobbiamo pagare noi, allora non va più bene, no? Cioè, non è un messaggio serio. Cioè, il problema è che lei sia stata messa in consiglio regionale, poi votata tra l'altro, ma non per motivi... No, non è stata votata, è stata inserita in un nella listino lista. Bloccato. Sì, votata in un listino bloccato, certo. Il problema... Noi ragazzi giovani che ci presentiamo alle elezioni, cerchiamo le nostre preferenze, le cerchiamo sul territorio, facendo la cosiddetta gavetta. Mi spieghi una cosa, tra l'altro lei ha detto che è uscita dal PDL, adesso in Futuro e Libertà, c'è stato anche un tentativo di comprare un suo ravvedimento in qualche modo, questo ce lo racconta tra un attimo, le hanno offerto un posto alla Mondadori, così ha raccontato anche ai giornali. Quello che le chiedo, la sua battaglia che lei ha fatto come 25 anni, come ragazza esponente del PDL che voleva farsi strada nel partito, forse anche nelle istituzioni un domani, ha un seguito nel centrodestra? Lei pensa di avere gente che la segue o no? Guarda, il motivo anche per cui io ho denunciato questo discorso del posto in Mondadori è esattamente perché sono convinta che esiste una parte di questo paese, né di destra né di sinistra, ma semplicemente delle persone libere che sono stufe di vedere rappresentato in questo modo indegno il nostro paese. È bene far sapere... No, ma questo è evidente. Sicuramente nel centro-sinistra posizioni come la sua sono stramaggioritarie. Ma quello che le domando è se lei in sostanza pensa di dover cambiare schieramento politico per questa sua presa di posizione o seppure stando nel centrodestra la sua strada... Sarà quella. Fermamente che si può essere di centrodestra con dignità e con orgoglio, partendo da valori, partendo da progetti, da idee. Il centrodestra non è il berlusconismo, che è già morto. Ripartiamo da valori comuni. Il berlusconismo è morto, lei dice, però non mi sembra mortissimo, insomma. Beh, io credo che sia morto sotto tutti i punti di vista, politico e anagrafico. Berlusconi è già finito. Quello che noi dobbiamo fare, centrodestra e centrosinistra, è avere il coraggio e la credibilità per costruire un'alternativa al Berlusconi, perché altrimenti quando lui poi non ci sarà più, veramente rimarrà il baratro e non esisterà una classe dirigente credibile. Ma è vero che lei ha fatto la tesi di laurea sul Cavaliere, su Berlusconi? Verissimo, verissimo, ho fatto una tesi di laurea che gli ho anche consegnato un paio d'anni fa sulla sua figura, sulla sua modalità di comunicazione che è stata comunque unica, no? Nel suo modo di fare politica è stato unico in questo paese, quindi ho dedicato un grosso capitolo della mia tesi al suo personaggio in quanto comunicatore politico. Ma secondo lei il berlusconismo è cambiato in questi anni, è peggiorato, è degenerato, oppure queste cose che ci sono adesso, secondo lei, che lei critica tra l'altro, erano già visibili anni fa in qualche modo, o c'è stato invece, lei dice, mi sembra di capire, un cambiamento, un peggioramento, una svolta? Guardi, io credo che ci sia stato un Berlusconi 1 e un Berlusconi 2, non che il primo fosse privo di difetti, ma sicuramente non era questo modo di fare politica, esistevano dei progetti, dei sogni che poi in qualche modo sono stati traditi, io per prima ci ho creduto, ma è un po' come insomma quando uno mi si viene fatta ma tu eri con lui e adesso non sei più con lui. Allora dico, ma perché allora non dice al marito e alla moglie che sono insieme da 10 anni, ma adesso vi separate, ma siete insieme 10 anni? Ma mi dica per esempio, la politica, i valori, le idee, quando queste idee non ci sono più, ci si separa. Ecco, mi dica per esempio una di queste idee, uno di questi valori, uno di questi progetti del primo Berlusconi che secondo lei erano importanti, sposabili, che poi si sono perse per strada. Beh, lui aveva promesso il paese azienda, no? A livello di funzionamento, aveva promesso di in qualche modo eliminare il vecchio sistema dei parrucconi della politica e portare la sua capacità imprenditoriale al servizio del paese. Aveva il sogno liberale, in qualche modo, alla luce di un comunismo finito, di un socialismo fallito, della prima repubblica. Quindi meno tasse per tutti, i giovani con i posti di lavoro, con le 3 I, no? Inglese, internet, impresa, cioè ce n'erano tanti di progetti che. E invece quando incontra i giovani propone sempre di sposare un uomo ricco, e questa è la battuta, ecco, immagino, guardi, che lei ha fatto benissimo a dirmi questa cosa, perché è stato il primo momento, uno dei primi momenti in cui io mi sono separata diciamo moralmente con lui, perché lei, lì si è accesa la lampadina, lampadina. Perché le donne italiane sono donne che portano avanti questo paese, nella famiglia, nel lavoro, nella società, e noi non abbiamo nessuna voglia di venderci a un vecchio ricco, nessuna voglia di accontentarci, ma quello che abbiamo guadagnato ce lo siamo sudate e vogliamo metterlo in pratica nelle nostre professioni e nella nostra vita privata. Quindi è stato per me un'offesa come giovane donna, insomma ho studiato tanti anni, ho preso un master, sono andata all'estero. E se voglio sposarmi un uomo è semplicemente per amore, no? E non per il suo denaro. Quindi, cioè, lei non credeva all'ingenuità, alla bontà della battuta in sé per sé. Per lei quella battuta lì diventava il simbolo di cosa? Guardi, se fosse stata una battuta, non credo che sarebbero successe tutte le cose che sono successe dopo, no? È un modo di pensare, è una battuta cultura, che in fondo però dice la verità, secondo lei, in qualche modo. Assolutamente sì, nello scherzo c'è sempre un po' di verità, no? Quando poi non costruisci un paese capace di andare avanti con le proprie forze, dimostri che quello è veramente quello che stai facendo, no? Dire alle giovani donne: o venite a casa mia e poi siete inserite nelle istituzioni, o altrimenti se non andate con me andate con un altro ricco. Un'ultima cosa, mi racconti un attimo questa vicenda del tentativo, del contatto che c'è stato con lei. Addirittura lei ha detto il ministro Gelmini l'ha chiamata per cercare di riportarla sulla buona strada, quando ancora sembrava possibile che lei rimanesse nel PDL, poi è uscita, abbiamo detto, in futuro è libertà. Però c'è stato una bocca, le hanno proposto addirittura un posto alla Mondadori, è così? Sì, è così, il ministro Gelmini mi ha chiamato cercando di farmi partecipare, non solo, ha anche mandato un suo stretto collaboratore a Roma, da Milano a Roma, che mi ha chiamato tutto il giorno per cercare in qualche modo di convincermi a fare un passo indietro. E lo stesso collaboratore, in una stanza con 2 testimoni, mi ha detto: prendi questo caffè con la Minetti, in qualche modo creiamo questa immagine in cui tu dici fai pace con lei. Un caffè da fotografare, un caffè da riprendere con qualche telecamera. In cui poi tu dichiari che in fondo hai visto che lei era preparata, che era una ragazza per bene, preparata, e quindi tutto sommato quel posto se l'era meritato. E insomma, come ha sistemato tante, sistemerà anche te. C'è una grandissima azienda Mondadori, tu hai studiato marketing e comunicazione, potresti pensare a questa. E qui è il punto, cioè, bisogna capire che in questo paese non siamo tutti comprabili, non abbiamo tutti un prezzo, che qui c'è in ballo il futuro nostro, dei nostri figli, della nostra generazione. E quindi io sono veramente rimasta scioccata, e da qui ho capito che non c'era nulla da fare. Cioè, è stato il collaboratore della Gelmini a fare proprio il nome della Mondadori come azienda? Sì, esattamente sì. E dopo questo incontro lei cosa gli ha detto? Cosa ha risposto? Ho detto che io, grazie a Dio, un posto di lavoro ce l'ho, anche se precario, anche se sudato, e che quello che volevo fare era portare un altro modo di fare politica. Dopo che ho dichiarato questo e quindi non sono stata più comprabile, hanno iniziato ovviamente a attaccarmi sul personale, quindi a dire che quel posto lo volevo io, che quindi ero gelosa, che quindi insomma non è stato possibile parlare neanche con uno di loro di una tematica. C'è un problema sulla linea? Sara Giudice, pronto? Sì, mi sente? Eccola, adesso la risentiamo. Sì, non è stato possibile. Possibile con nessuno esponente del Popolo della Libertà parlare del tema della questione, cioè della meritocrazia e della selezione della classe dirigente del partito. Mi veniva sempre risposto altro, o che non facevo parte del PDL, o che era meglio insomma per convenienza e che mi sarebbe stato riconosciuto qualcosa. Nessuno è stato in grado di dirmi una parola. Del giorno in cui io ho rifiutato non mi è stata nemmeno più dato il saluto. Mm. E con queste persone non ha più contatti? Neanche, voglio dire, umanamente no. Parlando, perché lei ha un'esperienza anche di sì. Qualche... Quanto tempo no, è stata? Con molti di loro, per l'amor del cielo, io non voglio dire sì. Che sono tutti persone. No, ma io parlo sono di queste persone, qualche... persone. Quanto tempo è stata lei nel PDL? Ma guardi, dall'inizio della sua fondazione, quindi 2 anni, 3 anni. Quindi 2 anni, insomma. E ho ovviamente instaurato molti rapporti anche di amicizia che con molti sono rimasti, con molti altri no. Senta, ma la Gelmini ha smentito questo tentativo, questo incontro o no? Mi risulta di sì, ma ovviamente non mi aspettavo niente di differente. Mm. Ma c'è qualcuno nel PDL che la pensa come lei, che non affiancherebbe da questo punto di vista alla Gelmini che ha tentato di fare questo che lei ha denunciato come una compravendita, insomma? Guardi, da quando è iniziata tutta questa vicenda sono state tantissime le persone del Popolo della Libertà, anche amministratori pubblici, a stringermi la mano e dire aspettiamo che tra un po' finirà e poi insomma così potremo... Le hanno detto. Come? Così le hanno detto, ma questo a bassa voce, cioè non davanti a... Assolutamente, non dichiarazioni pubbliche. Io, aspettiamo ripeto, aspettiamo cosa? Aspettiamo che insomma che lui finisca in qualche modo, no? Che finirà il berlusconismo, che ormai è andato fuori di testa, che tanto lo so che hai ragione, tu hai perfettamente ragione, è una cosa che pensiamo tutti. Però, ecco, però, questa è la frase tipica. Però non è si può cosa... dire, perché non lo dicono questi esponenti della maggioranza, del PDL, questi amministratori, perché non vogliono scendere dal carro di governo del... Molto, molto per opportunità personali, no? C'è chi doveva essere candidato, c'è chi ha delle posizioni di potere, per cui è ovviamente pericoloso e sconveniente fare un'affermazione di questo tipo. Ecco, io penso che poi quando ci sarà veramente, come mi auguro e come auspico, una selezione diversa del personale politico, una classe dirigente nuova, queste persone poi scendano insieme a lui da questo carro e non si facciano più vedere. Grazie Sara Giudice, buona serata, facciamo grazie una pausa. Grazie a voi, arrivederci. 20:35, rientriamo con i titoli del TG2. Il richiamo del Presidente della Repubblica nella cerimonia del 25 aprile, le riforme vanno fatte nel rispetto della Costituzione, elezioni amministrative no al cieco sconto. Celebrazione in tutta Italia ma anche polemiche, all'altare della patria contestato il ministro La Russa, sfregi razzisti a Roma, a Milano tensioni con i centri sociali. Ok del governo, missioni offensive degli aerei italiani in Libia, il presidente del Consiglio Berlusconi ne ha parlato poco fa con Obama, il Parlamento annuncia una nota, verrà informato dell'iniziativa militare. In Libia, nuova strage a Misurata, bombardata dalle forze di Gheddafi. In Siria continua la repressione del regime, la polizia spara sulla folla, massacro a Deraa. 2 carabinieri sprangati e feriti gravemente da giovanissimi ubriachi dopo un rave party nel Grossetano. 4 fermati, abbiamo perso la testa, hanno detto. Sette medici indagati per la donna morta all'ospedale di Scafati nel Salernitano, operata una gamba, era incinta all'ottavo mese di 2 gemelli. Così dunque il TG2, c'è da registrare questa accelerazione nella crisi libica della posizione italiana. Berlusconi ha annunciato che dopo un colloquio con Obama ha manifestato la disponibilità italiana a interventi più efficaci. Sostanzialmente si parla di bombardamenti sulla Libia anche da parte dell'Italia, degli aerei credo dell'Italia che già partecipa alla missione. Napolitano dice che è stato avvertito di questa decisione. Il ministro La Russa della difesa parla di bombardamenti che non saranno indiscriminati e sul piano politico c'è già chi, come la Lega, fa un forte distinguo. Dice il ministro Calderoli: i bombardamenti non avranno il mio voto. 20 e 38, riprendiamo con gli ascoltatori. 800 24 0024. Davide da Ferrara, buonasera. Buonasera. Premetto che ho ascoltato la trasmissione fino alle 8, poi per motivi personali non l'ho più sentita. Io ho chiamato, ho cercato di chiamare dall'inizio per quanto riguardava il 25 aprile e le indegne parole di Feltri, se non l'editoriale di Feltri che lei ha letto. Io sì. Oggi sono appena tornato da un'ora da una visita a casa, sono di Ferrara, da una visita a casa di un partigiano che compierà 89 anni, comandante di un distaccamento della 35esima Brigata Rizzieri. Io credo che sia un dovere di tutti continuare a festeggiare, anche quando queste persone non ci saranno più, la liberazione, perché se io e lei possiamo parlare adesso e anche grazie a queste persone. Io ho scritto 3-4 libri sulla resistenza nella mia provincia, qualcuno sul dopoguerra, e adesso mi sto occupando di deportati politici nei lager. Sono 25.000 i nomi italiani deportati nei lager, cioè nei campi di sterminio, che vanno aggiunti alla terribile tragedia della Shoah e che nessuno fino ad ora si era praticamente ricordato. E il merito va ai professori Tranfaglia e Mantelli dell'Università di Torino, con cui ho avuto l'onore di collaborare. Sì, vabbè, lasciamo stare i professori, però va bene. Vabbè, non è vero, non li lasciamo stare perché va bene. No, ma nel senso, sì, ma questo rimanda a delle altre cose. Vabbè. Sì. A cosa rimanda, scusi? No, dico nel senso a questioni sue con il professor Tranfaglia. No, beh, io siccome è un lavoro meritorio va dato atto a loro. E volevo dire che quel radioascoltatore che ha parlato, il primo se non sbaglio, che ha preso la parola nella sua trasmissione, che ha detto che allora cosa dovremmo fare quando non ci saranno più vivi dei deportati ebrei, eccetera, eccetera, non ricordare più la Shoah, tutte queste cose qua. Ribadisco, il 25 aprile è una festa fondante della nostra nazione e ribadisco che se io e lei siamo qui a poter discutere, a pensarla eventualmente anche in maniera diversa e a poterci dire che la pensiamo diversamente, va anche a questa persona, Walter Fegi di Codigoria, a tutti i partigiani che come lui hanno rischiato la propria vita perché erano dalla parte giusta, e ricordiamoci che c'era una parte che era una parte sbagliata. I morti vanno rispettati anche dall'altra parte, per carità di Dio, ci mancherebbe anche quello, ma non si può fare di tutto un erbo un fascio, perché ricordiamo che quando i politici dicono che anche chi era dalla parte della Repubblica di Salò combatteva per un'Italia che vedeva l'abolizione dei partiti politici, in cui non si poteva più votare, erano stati aboliti i sindacati, la libertà di stampa, la libertà di opinione ed erano state emanate le leggi razziali. Benissimo, grazie Davide da Ferrara. La metto così subito in contrapposizione, credo, con Alessandro da Bergamo. Buonasera. Buonasera. Buonasera, io non ho scritto dei libri, però ho studiato abbastanza bene, spero, quel periodo. Sinceramente io credo che per lo sviluppo civile, democratico del paese, non andrebbe in alcun modo festeggiato il 25 aprile per ragioni che sono evidenti. Primo è che si basa su dei fatti storici, più importante è il quale che si continua a ripetere che l'Italia è stata liberata dai partigiani. Questo non è vero, il loro contributo è minimo e lo dimostra tutti i dati fondamentali della Seconda Guerra Mondiale. Quali dati? Quali dati? Mi scusi, perché qua sui dati ognuno dice allora, la sua, però insomma. Bene, ragioniamo su questo discorso qui. Sì. Seconda Guerra Mondiale, non mi faccio proprio parlare mezz'ora perché no, è lei che ha chiamato, se vuole possiamo anche buttare giù subito, come no, preferisci. No, mi scusi, faccio un minuto, cerco di dare il più possibile. Sì. Allora, perché non mi risulta che abbiano vinto nessuna battaglia importante, e la pressione centrale della guerra sia in Italia e non solo, ovviamente, è stata essenzialmente portata avanti dagli americani. Questo è evidente. Secondariamente non credo che sia il caso di festeggiare come liberatori coloro che sono anche vantati di aver fatto attentati terroristici. Mi risulta che siano stati uccisi più persone in tempo di pace che persone in tempo di guerra da quelli dei partigiani, e nessuno di loro ha avuto poi sostanzialmente giustizia. Cioè, finché non ci si libera da questo, chiamiamo retroterra, chiamato culturale, si fa fatica a costruire un paese veramente unito, veramente serio, veramente democratico e civile. Cioè, il 5 aprile considera una festa veramente legata al passato, e capisco i momenti post guerra. Sinceramente, pensare che sia una festa della liberazione adesso, onestamente la vengo basata su una ingenuità totale e spesso anche su una antidemocraticità di fondo. Va bene, grazie. Così abbiamo avuto due commenti di segno, insomma, molto diverso, Davide da Ferrara e Alessandro da Bergamo, così si commentano l'uno con l'altro. Fabio da Roma, buonasera. Buonasera. Senta, ma Cruciani che fine ha fatto? Cruciani che fine, nessuna fine, semplicemente stasera non c'è, perché è un giorno di festa e... Ah, quindi è solo occasionalmente che sì, c'è lei? Sì, sì, sì. Ah, per fortuna, perché il suo modo di condurre proprio non mi piace, veramente, la trovo molto squilibrato. Ma squilibrato mentalmente? Squilibrato mentalmente, no? No, mentalmente no, squilibrato nel suo modo di condurre, troppo fazioso da una parte. Da quale poi parte? Anche l'intervista con Giovanardi, insomma... Sì. Non è stata all'altezza della trasmissione. Spero che lei non conduca più. Va bene, grazie. Grazie. Se vuol di... Ah, solo questo voleva dire? Sì, sì, ho chiamato apposta perché lei mi sta veramente antipatico nel modo di fare, non come persona, per carità, ma nel suo modo di condurre. Vabbè, anche lei non è che è stato simpaticissimo con questo intervento. Perché... Beh, a molti ascoltatori che la pensano come me, di sicuro. Grazie. Molti sicuramente approveranno quello che ho detto. Un intervento interessantissimo. Grazie, grazie Fabio. Andiamo a Dino che chiama da Milano. Buonasera. Sì, buonasera. Prego. Chieda un po' al signore cosa vuole che dica, così almeno poi sarà contento. Vabbè, parecchio. Sì. Intervenivo per, ad esempio, per parlare di Giovanardi che ha tirato in ballo la Costituzione. E la Costituzione bisognerebbe sì. tirarla in ballo sempre, perché adesso dicono che bombardano la Libia e l'Italia in Costituzione ripudia la guerra. Questo è un... Giovanardi è un degno ministro di questo governo, cioè tirano in ballo la Costituzione solo quando va bene a loro, previo poi calpestarla nei momenti che fanno più comodo a loro. Giovanardi ha parlato di violenza per cui ci sono donne picchiate dai mariti oppure figli uccisi dai genitori. Ecco, ma si ricordi Giovanardi che anche quelle sono famiglie. La famiglia non è uno sposato con una donna, punto e finito per Costituzione o perché. La famiglia è dove c'è amore. Io voglio sapere se sul manifesto dell'IKEA invece lui avrebbe preferito un signore di mezza età con 7-8 donnine dell'oggettino, magari per quello per lui è più famiglia di due ragazzi che magari si vogliono bene. Cioè voglio dire, sono tutti dei pretesti, tutte cose che servono a spostare sì. l'attenzione dal vero momento tragico del paese, perché praticamente abbiamo un tasso di disoccupazione che non si ricorda dal dopoguerra, sì. richieste di sussidi di disoccupazione che non si capiscono, aziende che chiudono, ho fatto adesso 10 euro di benzina alla macchina, gli ho bagnato il becco. Vabbè, e io al Parlamento sì, intasato sì, sì. da 6 mesi su leggi per dei processi di cui a me non me ne frega niente, perché non mi processeranno mai, perché io non ho l'abitudine di farmi processare, perché cerco di rigare dritto, insomma, voglio dire, Giovanardi è un degno ministro di questo governo. Va bene, grazie. Credo che il discorso di Giovanardi sia strumentale, insomma, l'ho già detto, e che andasse a caccia di qualche titolo, e insomma, da questo punto di vista c'è riuscito. 20:46 traffico. Eccoci di nuovo all'800 24 0024, ancora, insomma, uno spicchio di trasmissione per i vostri interventi. Laura dalla provincia di Venezia. Prego, buonasera. Buonasera. Senta, dunque, io chiamo per la questione del 25 aprile, sì. no? Perché la motivazione che la festa non avesse più senso perché potevano non esserci più testimoni mi sembra veramente assurda. Infatti la domanda che volevo fare era questa: chi è che pensa che a un certo punto i francesi smettono di festeggiare il 14 luglio perché verosimilmente non ci sono più dei sopravvissuti della rivoluzione francese, no? Questa in effetti è buona vero. Perché lì parliamo del 1789, no? Ecco, quindi la questione evidentemente è un'altra, cioè mentre i francesi con tutte, diciamo, le cose importantissime e grandi che ha fatto la rivoluzione francese, ma anche delle cose che poi, diciamo, terminato il terrore, l'impero napoleonico e tutte queste cose qui. Però insomma, lei dice sono più uniti i francesi. No, la Francia non ha mai avuto il dubbio che su quel fatto passato si potesse, diciamo, riconoscere la propria identità nazionale, no? Noi invece siamo delle banderuole, cioè siamo sempre alla ricerca di qualche cosa di nuovo, perché siamo incapaci di diciamo raggruppare, di riconoscere, di identificare la nostra appunto identità nazionale su un fatto del passato. E allora mi permetta una piccola critica su quella, su quel così momento con cui lei aveva criticato il riferimento di quell'ascoltatore precedente a Mantelli e Tranfaglia, no? Cioè in fondo forse il grosso problema italiano è proprio questo, cioè noi siamo una società che studia sempre di meno, sì, che non riconosce il grande tributo di chi invece studia e fa ricerca per professione, e quindi siamo sempre di più ignoranti e quindi non siamo capaci di riflettere sulla nostra memoria. Cioè, lei dice che studiare anche la storia certo, servirebbe insomma, certo, questo mi sembra evidente, fornisce, sì, fornisce memoria, fornisce identità, e noi invece ormai non ne siamo più capaci, per cui ecco che allora non capiamo che un fatto come il 25 aprile, indipendentemente che ci siano o non ci siano sopravvissuti, è un fatto identitario fondativo, perché comunque anche Napoli ha avuto le giornate di Napoli, di fronte all'Italia che crollava sotto i bombardamenti, si è costituito un tardivo, secondo me, però uno scatto di difesa della libertà e di principi generali. Insomma. Va bene. Grazie. Posso aggiungere una cosa piccolina su Giovanardi? Sì, breve. Io vorrei che la si smettesse con questo discorso sulla famiglia naturale, sul diritto naturale. Ma lo sa chi l'ha inventato il concetto di diritto naturale? I filosofi del primo secolo dopo Cristo. Allora, di naturale esiste soltanto la legge della giungla. E va bene, si fermi qua, perché sennò poi mi apre un altro capitolo, un altro dibattito con altre citazioni. Grazie a questa ascoltatrice. Pier Francesco da Bologna, buonasera. Pier Francesco? Non c'è Pier Francesco, perfetto. Allora, Vladimiro da Padova. Pronto? Buonasera. Sì, è in linea, in diretta, prego. Sì, alcune osservazioni, intendo dare il mio contributo a quanto ho sentito fino adesso. Intanto mi congratulo con lei per la trasmissione. Grazie. Lei è molto bravo. Seconda cosa, dunque, glisso un attimino sul Giovanardi. Poveretto. Però abbassi un attimo la radio, perché sennò sentiamo il ritorno. La spenga proprio. Io auspico che la sua indignazione se la tenga nel denunciare certi vecchi sporcaccioni bavosi che si fanno le minorenni. Quando lo sentirò dire qualcosa in merito, allora crederò a Giovanardi. Fino allora lo ritengo un lacché e un cortigiano. E lancio qui un mio slogan che sto elaborando. Sentiamo. Bunga bunga al Quirinale. No, grazie. Ah vabbè, uno slogan abbastanza, torniamo, diciamo, semplice. Perché questo trasmetterò Berlusconi, fa finta di niente, non vuole farsi processare, perché se viene processato non può essere eletto al Quirinale, e quindi la sta svenando in una maniera paurosa. Ma arriviamo al discorso del fascismo. Sì. Mi riferisco a quella signora che diceva che 6 anni faceva la staffetta partigiana, sì. Sì, bravo. E diceva che pian pianino ci portano al fascismo. Lei ha chiesto in cosa vede ciò. Molto semplicemente, la risposta la do io, se mi permette. Nel fatto che 5 deputati del PDL, del cosiddetto PDL, hanno presentato una proposta di legge per abrogare il reato di ricostituzione del partito fascista. E questo non è un caso, voglio dire. Secondo, io credo che sia interessante capire le motivazioni storiche che hanno portato a quella situazione che qualcuno definisce la guerra civile in Italia dal 43 al 45. Io non ritengo affatto che sia stata una guerra civile, ma sia stata esattamente una guerra di liberazione, e mi spiego perché. Brevemente però. Allora, brevemente, in quel momento si erano creati 2 poteri esattamente uguali, uno si chiamava re e un altro si chiamava duce. Allora, praticamente a un certo momento, visto che le cose non andavano come aveva prevedo il duce, cioè la guerra la stavamo perdendo e Roma era stata bombardata, quell'altro re lo fa arrestare con la scusa di proteggerlo. Mi spiego? In quel momento fa l'armistizio con gli americani. cioè dice noi ci arrendiamo, ed è il re. Quindi si presume che un reame sia la persona che deve decidere. Sì, vabbè, basta. Fermo. Perché qua mi scusi, ma non è possibile alle 20:54 metterci, scusi, a fare. Io speravo che lei in 20 secondi chiudesse il suo intervento, ma se comincia a fare il ping pong tra Mussolini e Renzi, la finiamo più. Grazie. Magari interveniamo un'altra volta e riprendiamo il discorso. Adesso voglio sentire anche qualcun altro con altre idee. Con altre idee, non nel senso opinioni, ma per uscire da questo è un pass. Cesare, dalla provincia di Monza, Brianza. Buonasera. Prego. Allora, dunque io rimarrò un po' nel tema, anche perché è il 25 aprile. Io volevo dire semplicemente questo. Effettivamente io ho una certa perplessità, è una formazione storica, mi ci sono anche laureato in storia, di fronte a questo 25 aprile, come è vissuto negli ultimi 25 anni, 20 anni. Perché è indubbiamente vero che l'Italia non è stata liberata dai partigiani militarmente, ma il contributo ideale e morale che questi uomini hanno dato, mio padre compreso, nei suoi limiti, a quel fatto è innegabile. Però è anche vero che nell'89 è crollato un certo muro, è anche vero che non si può pensare che si debba santificare per forza tutto della resistenza, che non ci siano stati errori, e non si può evitare di pensare che dentro questa resistenza c'erano partiti che non avevano nulla a che fare con la democrazia, come poi si è evidenziato. Signor Bocca, che oggi sentivo citare a Radio 24, per carità, uomo partigiano, sì, e grandissimo storico anche, però non può continuare a dire che quello che scrive Giampaolo Pansa e un sacco di storici meno noti, perché non sono dei giornalisti, sia falsità, che la guerra civile è un dato di fatto, non è una cosa che si può discutere, che poi giustamente per fortuna nostra sia andato in un certo modo e il 25 aprile sia diventata festa della liberazione, è un bene, però non, è ora di finirla di uscire dal manicheismo, bisogna uscire dal manicheismo, non si può continuare a dire nel 2011 che i cattivi erano tutti da una parte e i buoni tutti dall'altra. Va bene, no, grazie. Si dà fiato a Berlusconi così. Grazie anche a lei, anche a questo ascoltatore. Riusciamo a sentire almeno un'altra persona. Salvatore da Milano, buonasera. Buonasera. Prego. Senta, io mi riferivo al discorso che aveva fatto la ragazza di prima, credo la signora o signorina Giudice. Sara Giudice, sì. Sara Giudice, sì. Esatto, sì, infatti l'ho già sentito. Ex PDL, adesso in Futuro e Libertà. E infatti io, Futuro e Libertà, esatto. Quello che mi ha stupito, cioè è tutto molto bello il discorso, tutto molto preparato, secondo lei giustamente, mi è piaciuto poco forse l'ultima parte, anche perché ha dato per scontato che il PDL ormai sono dei morti in piedi, permetto che io non sono del PDL, ha dato dei morti in piedi ormai di gente che si preoccupa solamente della poltrona e basta, dopodiché hanno una paura tremenda di tutto quello che potrebbe succedere, questo qua sta morendo e dietro... Ma a me sembra che è andato comunque in uno schieramento dove anche gli altri non è che siano tanto diversi da quelli che sono o che erano una volta del PDL, perché anche loro si preoccupano della poltrona, dovrebbero contestare quantomeno anche i suoi amici, no? Di quelli che ci sono adesso. Mi dà questa sensazione qua, perché non hanno mantenuto, sono partiti con dei veri proclami da Bocchino in poi, però i suoi colleghi che se ne sono venuti via sono tutti persone che mirano solamente o esclusivamente alla poltrona, e questo che mi ha un po' stupito. Per il resto mi era sembrato un discorso molto interessante, molto positivo. Va bene, Barzetti di Berlusconi, sentiamola lì, perché tanto finirà, gli altri scrivono dei libri su tutto e lui scriverà un libro di barzellette. Un libro di barzellette di Berlusconi, grazie. Chiudiamo qui, 20:58, tra poco Giornale Radio, la Zanzara torna naturalmente domani con Giuseppe Cruciani. Buona serata da Alessio Maurizio, un ringraziamento ancora a Laura Marchesi, Riccardo Polli, Valeria Bernardi. Buona serata.